Eccolo, trasmetti in diretta. Vai. Siamo in diretta? Siamo in Classico diretta. inizio della diretta. L'incipit più usato. Roger, Roger. Eccolo qua, Tecus & Dragons in diretta. Bene, oh. Benissimo. Bentornati, ci siamo di nuovo. Sì, lo so, c'eravamo un paio di giorni fa, vi abbiamo rotto i coglioni, non ci avete guardato, quindi oggi ci potete guardare stasera. Stasera noi di Tecus & Dragons, era la maledizione. Ci ha mandato quella sbagliata. Di cosa? Di sigla. Non era... No, ci ha mandato quella giusta, si vede che... Volta la carta, no? C'è la guerra di Piero adesso in diretta. Eccomi. Ci sono. Ciao. Bene. Ma ne tengo sempre un po' per sporcare le mutande. Prima non lo avete visto, Marci ci ha chiamato dal bagno. E non abbiamo fatto vedere perché non bagno. Abbiamo fatto sottotitoli, no. Eravamo sottotitolati. No, ti prego, lasciati. Io vedo solo me bruciare. Allora, come vi dicevo, giocheremo Tycoons & Dragons, no, giocheremo a Dungeons & Dragons con Tycoons & Dragons per RIP GDR, cosa? No. E maledizione Nikata, episodio 43, dico bene. Sì. Bene. E, inutile ricordarvi che ci potete sempre seguire sui nostri canali social di Tycoons & Dragons e RIP GDR. Il master torna a essere Enrico Cattabriga, che almeno io vedo sempre in grandissimo, non c'è verso, cioè si può fare, potrei fare anche una chiamata con altre persone, ci sarebbe comunque in sovraimpressione. Vabbè, le decisioni aziendali di Discord. Oltre a lui abbiamo Giulio Bosi, Stefano Gamberoni, io Andrea Giacomo Vecchi, Edoardo Saladini, Marco Bosi. E quel enorme coglione, volevo dire enorme. Ci sta un braccio alla volta, due no. Esatto, Sam, John, Gem e Francesco Arcidiacono. E, che dire, parola a chi fa il riassunto, che non sarò io perché finirò di battere. Possiamo avere un riassunto dal bagno? No, non fate. Io toglierei la musica perché mi sa che dalla diretta si sente solo quello. Non perfetto. L'ho messa la musica ancora. Ma avete ascoltato? Giuro che se ascolti la diretta si sente solo di Andrea che canta. Ma non è... Non c'è. Quello che ho detto non si è sentito. Cioè, io l'ho sentito. Fate partire la diretta, sono il solo che sente solo di Andrea. No, si sente, però è strano perché non... È ancora sottotitolato. No, io gli ho tolto i sottotitoli, non so cosa dire. Di cosa è sottotitolato? Sono le nostre parole mixate al testo della canzone. Esatto, ci hanno messo sottotitoli automatici. E la SIAE è qua. Quindi magari sì, esatto, volevo evitare. Le presentazioni dei vari membri, tipo sparali Katta, sparali Giulio. Esatto. Comunque vabbè, fondo musica a nostre voci è buono, nel senso che si sentono bene entrambe, non si sovrappongono mai. Però sento la... Scusate. Sì, sì, però... È un casino sta cosa, sassatela. Non capiamo da come possa... Ma adesso devi prendere un computer nuovo. Vabbè, io l'ho tolta. Giulio. Marci, comunque sì, condivido. Io non vedo però il... Teoria arriva, dovrebbe arrivare a breve. Sai Giulio, cosa? Devi comprare un pezzo di arancia? Sì, Giulio, esatto. È vero, per migliorare la cosa Vez deve comprare un computer. Allora, bisogna fare una conferenza stampa, perché tanto va molto di moda. Adesso non c'è più la musica, no? Fammi sentire. No, io la sento ancora. Allora, come possibile? Ragazza, devi comprare un aspetta, perché potrebbe essere in ritardo di un... Raga, sì. C'è un hacker che si è inserito solo per metterci la... È quello, no, del panino. Giulio, come l'hai messa questa musica? È la SIAE. Catta, fai vedere, girati di profilo. No, adesso l'ho rimossa proprio, ho rimosso anche la fonte. Te la tagliati la Niki col fucile a pompa? Sì, più o meno. Abbiamo usato dei mezzi un po' di fortuna. C'è la musica, c'è una musica altissima, tra l'altro. Ambra, puoi guardare la diretta di Nico. Ho tolto tutto, non è possibile che sia la musica. C'è Ambra che ascolta la diretta sul divano e io sento solo che la musica, effettivamente è bellissima. Okay, vabbè, però... io sento in loop Salla che fa la sigla. No, adesso non c'è. Non c'è più. Allora, va bene, e se non ci avete sentito prima, poco male, comunque sempre Tycoons & Dragons. Però è strano sta cosa che sia partita, perché sempre... era stoppata, era sì. Tutto stoppato. Va bene, la sigla non è cambiato nulla. Secondo me è il nostro hater, quello della sbora nel panino. Lui è lui. Dalla conferma. Attenzione, mezzo togliere le cuffie. Scusate. Ah! Beh, la prossima volta abbasserò l'audio. Ok. Allora, scusate, sì, se non ci avevate sentito prima, sempre siamo Tycoons & Dragons, come potete commentarlo. Scusate, parlavo con Ambra. La lezione episodio 43, il cui titolo è Ancora una volta non saliremo di livello. No, il titolo è Volta la carta. Che doveva essere quello che dovevamo sentire. Va bene. E comunque sì, avete sentito la musica. Direi che a questo punto Arci potrà fare il riassunto. Oddio, l'interrogato. Cazzo, adesso fa il riassunto della maratona Marvel. Siamo finiti. Sapevo che l'avrebbe fatto. Scusate, ragazzi. Bellissimo tuo riassunto. No, non ti arrampicare sugli specchi. Io rassente l'ultima volta. Ragazzi, no, sì. Giustificato. Non so come sia possibile, ma sei un po' verticale. È il mio telefono che sta pensando. Ecco. Okay. Io rassento l'ultima volta. Lunedì scorso? L'ultima volta. L'ultima volta abbiamo giocato all'ex arcana. E io rassente. Ho capito. Male, rassente l'ultima volta. Non è che ho detto che non faccio riassunto. Allora, dove eravamo rimasti? No, io mi ricordo che. Allora. Entravamo in una villa appunto dalla nebbia. Sentite? Sì. Scusate, no, ho un vuoto. Non è studiato. Per chiedere l'aiuto del pubblico, datemi un input iniziale. Arcidiacono 4. Eravamo tornati a Kresk e poi avevamo Marco deciso Bosi, di andare. Giulio Bosi. Hai detto Bosi. Abbiamo dormito molto. Arci, non ricordi un cazzo perché non abbiamo fatto un cazzo. Allora, c'è stata una spontanea combustione del granaio. Salla ha avuto gli incubi e non ha reccato. Esatto. Vez non riesce a reccato, Arci. Non ha recuperato. Probabilmente perché ha rubato i soldi. Spell vuol dire? Vai, Salla. No, poi li abbiamo recuperati, però non l'abbiamo fightato. Allora, siamo arrivati a Kresk. Mentre dormivamo durante la notte, non si sa bene perché, il granaio ha preso fuoco. È esploso. No, è esploso, non ha preso fuoco. Sono le cose che cadono. Esatto. Cose che cadono, ci richiamo tutti. Raga, io stavo cercando di fissare la webcam, ecco perché. Poi ricordo. E ci siamo recati sul posto, c'era, a parte a parte lei siamo andati sul posto, crossover, episodio crossover, sì, esatto. C'era Sfortuna che praticamente ci ha fatto capire che era colpa sua, ma lui stava cercando di difenderci da Strad che erroneamente aveva invocato, possiamo dire così, sì, in un certo senso, nella mossa dell'aver dato fuoco al fienile l'ha momentaneamente fermato e ha anche ucciso i due popolani che erano 3, scusate. Ah, sì, è vero, erano, vabbè, i nomi mi aiutavano. Sì, qua di qua. E poi cosa altro abbiamo fatto? Dopo questo abbiamo aiutato dal carretto. Sì. Sì. Sono andati a cercare il figlio del come caso si chiama? I corvi, mannaggia. Martinkov. Esatto, perché uno è alla locanda da chi ha bisogno d'aiuto perché non sta vendendo, bla bla bla, e l'altro invece è disperso. Esatto. E noi eravamo partiti per cercare questo qui. Esatto. L'abbiamo anche trovato. Dove sono i finanziamenti di Strad alle città della Barovia? Non ci sono. Il trasferimento. Io invece lo vedo laggare di brutto, perché parla mentre si soffia il naso. È normale. È normale, il computer nuovo. I finanziamenti di Strad stanno nelle città di Strad, non la vostra. Infatti. Beh, potresti fare un patto per il computer nuovo. Comprarlo? Pagare 2000 e passa euro, già fatto. No, però no, con Strad, dice, giustamente. Bene, sì, direi che ci siamo. Abbiamo scoperto che il carretto era stato assaltato, il figlio di Martinkov è morto, e sfortuna ha fregato il master che ci voleva far spendere 46 anni per riparare il carretto con il suo incantesimo. Abbiamo riparato il carretto, Katta ha cercato qualunque altra scusa per impedirci di portarlo, ma mentre ci stava pensando noi l'abbiamo riportato a Crest. Non era così fondamentale, ma va bene. E niente, a quel punto abbiamo detto a Martinkov che il figlio è morto. Beh, abbiamo fatto vedere il cadavere. Ti è arrivato da solo senza dirgli. Questo cadavere è moccio. E niente, Martinkov si è messo a piangere e ha detto di lasciarlo solo. E quindi noi l'abbiamo lasciato. Però adesso stavamo decidendo, e alla fine mi sa che abbiamo deciso di andare comunque a Vallata. Stiamo andando a Vattargrad. Siete alle porte di Vattargrad, ex Vattargrad. Con l'elfo, sì. Che si chiama? Kevin Single. Due. Kevin Due. Basta. Ed è a lui adesso che chiederemo di comportarsi da eroe e andare a saltare da solo Vattargrad ci pensiamo noi a cosa sarà. No, non è vero. E gli chiediamo di esplorare. Lui in teoria è un esploratore. Sì, lui vi accompagna per tutto il viaggio, aprendovi la strada, e vi dice che inaspettatamente sono molto tranquilli questi boschi che lui credeva fossero infestati da lupi mannari. No, ho ammazzato il capo dei lupi mannari. Gliel'hai detto? Oh, adesso sì. Esatto, cioè non ci stai dicendo niente di interessante. Per lui sì. Ho ammazzato il capo dei lupi mannari. Venerami come un dio. Visto che anche il branco mi ha rifiutato. Tu Giulio riesci a vedere i commenti? C'era uno della mamma di Ambra e uno di sono degli altri. Nessuna ricetta di panini alla merda. Infatti. No. Peccato. Per esempio, una bella variante di salmone e sborra potrebbe essere tonno e squirting, per esempio. Boh, la sborra ci sta bene sempre. Glassato. Le proteine. Sì, sono tutti... Sborra caramellata. Che cazzo state dicendo, raga? Non lo so. Io sto giocando a LOL, non mi disturbo. Sto guardando i miei pacchi se quando arriva. Cioè, vabbè, ho capito che parliamo di sborra, però. Oh, scusa, stavate giocando troppo di ruolo perché io riuscissi a seguirvi. Oh, oh, quanto male. Oh, faremo madre, tutta la puntata madre, così. Madre. Allora, a questo punto, com'è la situazione di Vaktargrad? Ma quasi, quasi riattivo i sottotitoli automatici. Sì, sì, sì. Utile. Ti prego. Beh, sì, i nostri fan sordi come fanno a seguirci? Altrimenti? Ora li vedo. La situazione è ballata. Sono gemelli diversi. Ma, altrimenti qualcuno sa fare il linguaggio dei sordi. Io sì. Vai, Arci. Seo e Salla sono gemelli diversi, chiede Ambra. Non lo saprei. Ah, li devo leggere i commenti, non dovevo solo dire che c'erano. Mentre la crisalide neanche diversissimi. E poi vabbè, rimettete la musuca. Musuca, perché sono musica. La mossica. Mossica. Ma, maestro, la bamba. Cosa, allora, cosa sta facendo? Ma che teste di animali? Questo è uno stoco. È azteca, che cazzo. Azteca. Anniversario. La situazione adesso non la sapete ancora. Sapete i dispacci che mandava Martinkov da quello che diceva suo figlio che aveva la locanda. Sapete che è il genio che sta prendendo delle patatine vicinissime al microfono. Io, ma non sono patatine, sono i dadi. Okay. Oh! Dai. Tutto questo catta. E cosa pensi di fare con quei dadi, Giulio? Forse salire di livello? Vinco. Gioco. Giocare, io vinco. Magari... No, niente, della città in realtà sapete relativamente poco, se non che i vistani si sono trasferiti e stanno facendo i bulletti. Sì, perché sono le guardie. Sono le guardie, quindi sequestrano quello che gli pare. Posso fare una domanda io al gruppo? No. Avevamo in previsione di fare qualcosa, avevamo delle intenzioni. No. Non lo so. Stavamo decidendo se conquistare un'altra città o no. Sì, entravamo in città come conquistatori e niente, fine. Se a me sfugge un attimo la cosa, l'obiettivo della compagnia al momento. Uccidere Strato. La mia sensazione è che stiamo rimbalzando tra queste città da un po'. All'atto pratico non abbiamo ottenuto nulla. Dobbiamo fare tutte queste side quest. Io sento come del disordine nei ranghi, cioè non vorrete che io impicchi l'elfo per darvi un calcio? Devo impiccare l'elfo? Come avete fatto impiccare l'elfo adesso? Come la mettiamo? Oh, signore! No, la mia domanda è seria, andiamo a Valachi, cioè seriamente per conquistarla o... Lui implora in ginocchio, non impiccatevi signori miei! Farò del mio meglio, so che non sono degno. Non era ormai l'hai detto, Giulio lo fa. No, non era in gioco in realtà. No, allora, diciamo che non è il momento, come ti chiami? Garro, non è il momento di fare adesso queste domande, sai benissimo cosa merdaccia, come ti chiami? Che cosa vuoi qua a fare? Non hai visto la situazione di Kretzk? È terribile. Guarda il master, è diventato gigantesco, lui gigantesco, androide. La mia domanda era semplicemente in che modalità entriamo a Vallata? Come agiamo? Cioè, cosa facciamo? Entriamo veramente per conquistare senza neanche parlare con nessuno, senza passare dal via? Di solito conquistano. Allora, entriamo, andiamo dalla vecchia, che in teoria dovrebbe governare, uccidiamo la vecchia, prendiamo in controllo la città, fine. L'idea è buona, però non so se... La scena l'ho già vista, allora, arriva. Io direi di cominciare con le basi, cioè vediamo ste entrate, come sono, se sono aperte, se ci sono i guardiani, eccetera. Ah, quindi dobbiamo fare ricognizione. Ma quindi l'altro figlio scomparso lo diamo per morto definitivamente? No, non è scomparso l'altro, tiene la locanda proprio qui. c'è no, un altro quello che forse da, è stato preso dalla strega. Fortuna, pensa al tuo patrono e poi dopo ti riattiviamo. E, il discorso è questo, io andrei a vedere la situazione. Ovviamente il nostro obiettivo comunque è entrare e diciamo andare a trovare il figlio di Martin e consegnargli in teoria il vino. Ora ci sono due possibilità: o noi farlo con le buone o farlo con le cattive. Quello non lo fa Amazon. In questo caso siamo noi Amazon, però il abbiamo 13 monete d'oro. Non è vero, ne abbiamo un sacco. Hai 13 monete d'oro. Io ne ho un sacco, voi no, anche la compagnia ne ha 800. Allora, io ne ho un sacco. La compagnia. Siamo qua, non siamo qua né per i soldi né per la gloria e tantomeno per l'esperienza, a quanto pare. Ho sbagliato discorso... campagna allora. sì. Te ne rendi conto. Però da un po'. Allora, esatto, ti accorgi adesso. il discorso è questo. Dentro vediamo com'è la situazione. È chiaro, l'idea, l'obiettivo è creare una rete commerciale, comunque una via commerciale tra Vaktargrad e... può essere fatta, come diceva giustamente il buon Atanas, il cattivo Atanas, il malvagio Atanas, o con le buone o con le cattive. È chiaro che se dovessimo che la città non è così fortemente difesa, non sarebbe male. Il confine tra bene e male è labile. Diciamo che non sarebbe male togliere un'altra città Strad, però anche lì dobbiamo vedere anche se Martinkov ha degli amici in città oppure proprio solo. Quindi primo obiettivo è entrare in città. Nessuno agisce mai in nome del male, che per ognuno il bene è giusto? Certo. Questo è il saggio dell'altra campagna. Sapiente. Sì, esatto. Irade, no, va bene, allora direi di andare... Sì. Okay. Tu invece prima di entrare in città però volevi... Diresti di andare, No, io direi invece di indietreggiare. No, non so, da come l'hai detto tu entriamo in città in maniera pacifica allora. Allora, prima cosa, chi di noi, purtroppo non io, mi dispiace, però è un po' più furtivo, magari diamo un'occhiata a come sono le porte. Anzi, race. Della città. Cioè se sono chiuse, se sono aperte ma con le guardie, se sono aperte e poi ci nasconderemo col carretto e saremo i mercanti. Ok. Sì, i mercanti. Già, è vero. Ormai questa campagna. Arrivate nelle vicinanze della città. E vi dice, va bene, io allora vi aspetto all'ex nostro villaggio, che se vi ricordate, adesso... Perché Kevin te ne vuoi andare? Non è il mio nome, Kevin. Eh? Sì, sfortuna se n'è andato. Kevin non è il mio nome. Kevin 2, sì. Mi chiamo Fingol. Sì, va bene, Kevin, come vuoi. chiamati come preferisci. Kevin. Dato che ci hanno detto che il i Vistani ci hanno detto che se ne andavano a Vallachi, se mi vedessero capirebbero che gli elfi se ne sono andati. Beh, quindi, d'altra parte l'alternativa è prenderli e magari usarti come prigioniero sta facendo Arci? Aumentando i nostri follower. No, ora metto la salute. Ah, tra l'altro sono tornato a commentarti nell'ultimo video, Arce. C'è un ultimo video? Con i bacini, i cuoricini. Ah, i fruits. Sono sempre linguato. Scusa? Bravo, misfortune. Il tuo pubblico di riferimento. Cioè, no, non insultarli. Non ho insultati. Beh, hai detto una parola. Anzi, uno mi ha anche chiesto espressamente, ma sei gay? Ho detto no, gli fa no. Ma sei sicuro? Si può sempre cambiare. Non dare false speranze che poi... Prova a vedere questo gioco della penna. La verità è che finché non provi... Allora, no, comunque... Si vede. Tra l'altro, ha scritto tipo 15 volte. È Yak questo. Yeah. Esatto. Ma cos'è? Ah, quello di... Non so se hai notato che il primo è un segaio. Segaio. Tu hai risposto solo a quello, quindi magari... Sì, quello c'era un po' più di originalità. Va bene. Ok, vi diceva Thingol, guardate, c'è il villaggio degli elfi che adesso è disabitato, è qua poco fuori le porte della città, dovrebbe essere una base sicura dove ci possiamo muovere. Io mi lo userei come rifugio per fare avanti e indietro dalla città. Voi fate come vi pare, siete voi i magnifici eroi che ci hanno salvato tutti. Esatto, Kevin, bravo. Ma a me è sembrato sarcastico. Okay. No, era sincero, lui vi adora. Però non vuole essere crocifisso. Io no. Come vuoi essere crocifisso? Vabbè, se proprio deve insistere. Oh. Comunque va bene, dai, Fingol, tu rimani... Allora, bravo Fingol, ottima idea. Allora, rimaniamo... tu rimani nelle vicinanze, però. Vabbè. Se noi dovessimo essere in grossi guai, ti invieremo un messaggio. Ok, che tipo di messaggio? Tipo di colore. Sì, in teoria è il pipistrello, oppure non è modo in realtà. Cioè, voi avreste tipo delle magie, non so, però io... Salla suggerisce sto cazzo, io ho capito questo. Dalle gesta, non so, ho visto Salla... Ma io vedo Salla un po' laggare. Un po'. Sì, forse deve avere un nuovo computer. Forse giocherà a LOL. magari anche, esatto. Aspetta, che arrivo. Che bello. Sì, vabbè, guardate Dex che da d'accordo. Già visto. Ah, ok. Davvero. Non l'hanno mai visto, in realtà. Attenzione, ecco il furtivo che arriva a Salla di colpo. In realtà non credo che l'abbiano mai visto, a dire la verità. Ma chi? Però ma è vero che magari è un po'... L'elfo non lo sa. Un po' notare. Ma che cosa? L'alce di Vez. In questa città non l'abbiano mai visto. Io non mi ricordo, con l'alce ho un tot di metri, giusto? Di telepatico. Di legame telepatico. Sì. 100 piedi, mi sa. Sì, okay, pochissimo. Secondo me con quello di più, perché è di livello più alto. Quindi, che devo fare? Quello che sai fare meglio. Ah, niente, vado AFK. Sì, è vero, però probabilmente non ha senso. Hai un miglio di telepatia. Ah, un miglio? No, un sacco. Perché è di secondo. Un miglio? Non è un famiglio, è un destrino. È vero. Vabbè, allora è top, quindi io lo posso dire. Quindi sono un chilometro e mezzo, 1,6 km. Vabbè. Vuol dire che io non sono così lontano dalle mura, mi sente? È l'intera larghezza della città. È a tutti gli effetti un miglio. Ah. Va bene, allora gli lascio Adenov in... Come togli Sheo dalla conversazione? Col destro e vai filetto. Fai muto. Sai che si alleano contro di me? No! Ho provato blocca, faccio blocca. No, vabbè, silenzio. Fatto muto. Cosa succede? Qualcuno sta... Si sta limonando il microfono. Penso io esce. No, no, vabbè. Smettiamo Sheo, dai. Va bene. Qui potete vedere la vostra cara vecchia ex Vallachi. Sì, potete vedere. Cioè, vediamo una minchia. Se mi metti in primo... Clicca col destro e metti in primo piano. Oh, ora guarda la diretta. Bella Vallachi, vede bene qua. Ma ci siamo già stati, te la dovresti ricordare. Vabbè, gli do il beneficio del dubbio. Abbiamo fatto anche il tour turistico. Ah, è vero. Va bene, allora niente, non mi serve. Ok, ora la vedo bene. Ecco, è cata la tolta. Oh, che schifo! La rimessa? Sì. Sì, così appena me la ingrandisco mi ritrovo la sua faccia da cazzo. No? Esatto. Guarda, da lì. Allora, qui vedete la chiesa. Aspetta che ingrandisco anch'io. Che voi conoscete bene. Puoi riportare le reliquie al suo posto? Ho, ho un'altra idea. Cos'è che devo fare io, rega? Se ti va bene, potresti avvicinarti all'entrata e vedere qual è la situazione. E diciamo in modo furtivo. Così poi decidiamo un po' il da farsi. Ma lui, Vez, lui è un arcane, un arcane trickster. Lo so, però c'è una roba. Sì. C'è l'ingresso, ci sono delle guardie. Vedi, dando un occhio, si vedono da lontano un paio di vistani messi di guardia, e sono praticamente sdraiati per terra, mezzo ubriachi. È giorno o notte? Okay. Che grandi guardie! In teoria dovrebbe essere più o meno mezzogiorno, se voi siete partiti all'alba. Allora io... Cosa volete sapere della porta prima che vada? Cioè, com'è la situazione? Qual è la situazione? Ma anche dentro? Sì, Ah, oddio. Quello che dieci. No, per... Allora, io mi trasformo, uso la mia ultima spell, visto che non posso più rigenerare, e mi trasformo in uno stronzo qualsiasi, un omino che ho trovato, che ho visto in giro, un ricordo di qualcuno, che non sono io. Dopodiché, scrivo... prendo una busta di carta, cioè prendo un foglio di carta, l'autocertificazione, bravo, carta eterna, e lo lascio bianco, ma lo piego e lo chiudo col sigillo di Vallachis, okay, che è quello che ho rubato dal barone quando l'ho stuprato. Dopodiché sì, vado verso l'ingresso del posto. Lega, per intenderci, la chiesa qual è? L1? N2. N1, sì, scusa, N2 è la locanda. Ok, N1. Okay. L'ingresso da cui sta passando Salla. Ok, allora, noti due cose. Sì, esatto. Beh, voi arrivate da ovest. Da Old Svalik Road. La vecchia via di Svalic. Esatto. Ah, okay. Quindi arriviamo da N1 praticamente. Esatto. E noti due cose. La prima è che non ci sono più tutti i pali con le teste di lupo mozzate che c'erano quando siete arrivati. Perché c'era stato. I Vallachi è stata deturpata. Se vi ricordate, c'era stato il Festival delle Teste di Lupo, che doveva essere sostituito dal Festival del Sole, che non ha mai avuto luogo. Sì, catta, abbiamo distrutto l'ordine precedente giusto per queste puttanate. Esatto. Non puoi impalare il sole, quindi alla fine mi ha fatto bene. Va bene. E la seconda cosa che noti è che le porte sono completamente aperte. Vabbè, io entro, le chiudo mi fermo. E ne faccio saltare. Ci sono le due guardie che, come ti ho detto, sono completamente addormentate in preda ai fumi dell'alto. Perfetto, allora se nessuno mi caga io entro e mi faccio un giretto rapido intorno. Va bene, la persone che incroci seguono la loro quotidiana vita di tutti i giorni. Di merda. E ovviamente non sono tutte le minchiate che c'erano prima, tipo devi sorridere. Esatto, queste cazzate qua. Vedi tutti alle pareti i vecchi manifesti strappati, rimangono tipo solo gli angoli che erano attaccati ai muri. E la gente mi sembra relativamente tranquilla. Vedi chi c'è, chi commercia, c'è chi prepara ormai. È ora di pranzo e noti che abbastanza gente si mette a mangiare. E non è una cosa così scontata in una regione in cui di fatto il sole non splende mai, avere, non dico cibo in abbondanza, ma il minimo necessario. Appunto, hanno troppo, va ridistribuita questa ricchezza. Esatto. Arrivi nei pressi della chiesa, che ti Se non vi ricordate, stava di fianco al cimitero e dietro aveva un orfanotrofio dove padre Lucian accudiva gli orfanelli, appunto. Ma avevamo lasciato vivo padre Lucian? Sì. Ottima domanda. Sì. L'ultima notizia che avete avuto di lui è stata data da Martinkov quando eravate a Kretsk, che insieme, quando vi ha informato della presa del potere di Lady Vakter, vi aveva anche detto che non c'è più traccia di padre Lucian. Passando di fianco al cimitero, noti una cosa: praticamente metà delle tombe è stata scavata. Bene. E vedi il garzone, quello che è stato più e più volte maltrattato da Atanas, come tutti direte voi, Mini Moji, quello che aveva sottratto le reliquie per darle al falegname, era che, giusto, era stato giustamente che è in fondo al cimitero, che scava per dissotterrare un'altra tomba. Dissotterrare? Sì. Cioè praticamente qui di questo cimitero praticamente non si scava per sotterrare i morti, ma per dissotterrare. Vedete che sotterrando i morti dobbiamo ordinare di nuovi. Io faccio abbastanza spazio. Un altro foglio, ci scrivo ste minchiate qua, e che c'è l'amico di Atanas che sta dissotterrando le tombe, lo do al pipistrello e gli dico di portarglielo. Intanto mi dirigo verso il palazzo del borgomastro, no, del barone. Ok, quello prima, quindi il vecchio palazzo, il vecchio del barone, borgomastro. Sì, l'ex barone che sta in N. Intanto a cui arriverà il pipistrello con scritto ehi, cioè pieno di gente strana, e cioè, no, nel senso, sembrano tutti più felici, paradossalmente, ma c'è uno che dissotterra cadaveri. Beh, uno, ci puoi dire chi è? Tanto sì. Ray si è andato, dobbiamo darlo come per te. Andiamo fuoco alla città, cosa? Allora, la vecchia casa del borgomastro. Vi scrivo anche, vado a vedere nel palazzo del barone cosa è rimasto, cioè cosa stanno facendo. Il palazzo del barone in N3, e noti che una parte della casa è annerita da un incendio scoppiato un po' di tempo fa, e per il resto noti un gran viavai di vistani. Capisci che più o meno hanno stabilito lì il loro quartier generale. E passando lì di fianco noti una gran sporcizia, non sono noti proprio per la loro pulizia e il loro senso dell'ordine, diciamo, e c'è una catastrofe, degli sporchi questo lo stai dicendo tu, sporchi zingari. Ecco, ha tolto il bicchiere. Adesso riappare facendo. Notiamo che è verde il suo simbolo. Chi è che l'ha detto? Cosa? Falso. Fammi un bel perception, che tanto ce l'hai altissimo. Quindi non è vero. Vabbè, non ce l'ho anche non fare. Perception ce l'ho basso. È un arcane trickster. Non so. Hai ragione, scusa. Ho fatto 5. Ok, noti che c'è una grande pila di. Che il ladro ce l'abbia alto. Infatti, sì, ho anche investigare. Esatto. Noti che c'è una grande pila di pattume, di sporcizia accumulata a bordo della strada. Si chiama indagare. Esatto, evidentemente. Ok, a quel sono punto gli scarti degli stati. Torno indietro. E torno verso dove erano loro. Ok. Bene, noi nel frattempo abbiamo ricevuto il messaggio? E siete scappati. No, è una domanda. Sì, avete, nel frattempo avete ricevuto il messaggio. E siamo scappati. Bene. E direi che ci incappucciamo, ci diciamo, mettiamo quanto più non riconoscibili possibile. E se siete d'accordo, entrerei intanto. Yes. Assolutamente sì. Noi colpiamo il cartino col vino e l'alce fuori con Google. E mi chiedo, noi sappiamo, ci ricordiamo dov'è la locanda di in N2? Sì. Bene. Se direi di andare direttamente là. Non sarebbe meglio legare le guardie in qualche modo? Non ci sono guardie. Sì, ce ne sono due addormentate. Sì, che lo addormentate in preda ai fumi dell'alcol. Volevo lasciare lì, tanto se non ci vedono passare. Avevo capito che non c'era nessuno alla porta. No, c'è un due ubriachi. Esatto. Se ascoltassi le descrizioni importanti che fa Katta. Avevo capito che la porta fosse aperta, scusate. Anche ti sei perso la sessione di sabato. Non è che una cosa esclude l'altra. Non starei a far nulla a loro per il momento. No, le lascerei lì, tanto se non ci vedono passare. Esatto. Sono per il momento addormentati, circondati da bottiglie di vino vuoto. Molto bene. Io andrei a parlare con il nostro vecchio amico Milivoji. Garzone, Milivoji. Ok, gli altri cosa fanno? Sì, ci sta, ci ha detto che dissotterra dei corpi, è curioso. Ma... E poi tanto magari, è di strada. Magari aspettiamo un attimo a dirci, cioè andiamo tipo da Martin e vediamo un po' qual è la situazione. Ma con Salla siamo, con Race siamo rimasti che è finito il giretto torna fuori o... lui ci ritroverà, noi andiamo da Martin e presumibilmente lui poi arriverà lì. Beh, in teoria vi state venendo incontro, quindi vi incontrate a metà strada. Sì. Sì, non splittiamoci. Ok, vi rincrociate a metà strada. Tra il punto N1 e il punto N2. Com'è la situazione? È pieno di vistani ovunque e c'è un tizio, l'avete visto? Il tizio che dissotterra i cadaveri. Sì. Garzone. È normale? No. Okay. Probabilmente no. Ma tu hai visto cosa ci fa poi con i cadaveri? Hai solo visto che li sotterrava? Che li sotterrava e poi sono andato a vedere cosa c'era. Li sotterra o li dissotterra? Li tira fuori. Lui sta togliendo la terra da sopra le bare, da sopra le tombe. Vorremmo andare a chiacchierare con il nostro vecchio amico. Magari si annoia e li dissotterra e li sotterra. Esatto. Farei per prima cosa andrei a sentire da Martin. Metti la cera, togli la cera. Così magari lui ci darà anche delle notizie un po' più fresche. Andiamo da Martin. E poi dopo vediamo un po' il da farsi. Ok. Almeno. Andate da Martin, almeno a bar di strane d'Atanas. Posso decidere di non farlo? Potete decidere di fare quello che volete, giusto? No, dovrei dirlo. Non rendetemi le cose complicate. Allora io vi esorto a andare insieme. No, va bene. Poi magari facciamo i bravi. E io vado dove non va nessuno. Va bene. No, vabbè, sincero, io vorrei andare dal garzone. Vabbè, una cosa che cazzo sta facendo? Io posso fare una cosa alla volta, quindi iniziamo da Martin. Allora, non lo so, cioè è chiaro che se si oppongono, io consiglio per il momento di rimanere uniti perché non sappiamo davvero come si situa. Però non posso obbligarmi. Esatto, la mia idea è che altrimenti l'avrei già fatto. Allora, andiamo tutti insieme, quello sì. Tu sfortuna cosa dici? Ecco. Beh, in realtà potrei sciarmare il garzone così ce lo portiamo presto. Allora questo me lo puoi far dopo. Io manderei sfortune Patk dal garzone, però non so. Io eviterei di dividerci perché non sappiamo com'è la situazione, cioè sembra tutto tranquillo, però magari in realtà era una battuta. Andiamo da Martinkov e poi ci aggiorniamo. Sardi. Ci sei aggiornato prima? Devi arrivare. No, vado dal garzone, divento orso, poi divento nano e dico buongiorno. È arrivata come la sprecare locanda. Una forma selvatica. Acqua blu. No, e mi faccio vedere di essere pazzo. Ma sì, ovviamente sì. Lo dice in orso, quindi è più... Adesso siamo da un'altra parte, lo fai dopo. È arrivata la locanda dell'acqua blu. Davanti alla porta notate che c'è affisso... No, la fatica fisica di cartello. Nel masterarci. Non è fisica. E c'è un cartello davanti alla porta con scritto attenzione, ordine. Ordine di Vacta. Del borgo di Vaktergrad. Tutte le attività dovranno essere chiuse anche lì c'è il coronavirus. Al tramonto, al calare del sole. È la prima fase. Io farei quello in cui devi chiudere alle 6. Sì, sì, d'accordo. Qualcuno di noi potrebbe entrare e cercare di parlare con Martinkov, così magari facciamo entrare il carretto delle due da un'entrata secondaria, magari diamo meno nell'occhio e così magari parliamo con lui in privato. Mentre siete lì davanti, che vi avvicinate, la porta si apre perché qualcuno da dentro gli dà un calcio per aprirla di schianto, e vedete questo grasso Vistana che esce con un barilotto sotto braccio e urla qualcosa a chi sta dentro, dicendo ringrazia che sono stato buono questa volta, e se ne va ridacchiando. Fermati, marrano. E tu chi cazzo sei? C'è gente per strada. Sì, qualcuno che va e viene. Tutto stealth e poi Arci. Cosa? Esatto, fulmino Arci con lo sguardo. Tiro salvezza. Cosa mi ha mandato Snake? Ah, detto so. Ok. Cosa fai? Gli ho detto fermati, marrano. E lui ti ha detto, e tu chi cazzo sei? Mentre verso lo fulmina con lo sguardo, io inizio a suonare un'improvvisata. Oh, fermati, marrano! Madonna, sapevo che il diplomatico... Io me ne vado, raga. Bravo, Marco. Vabbè, i due ci hanno già risolto. Io me ne vado. Ti avevo detto di mandare loro due. No, l'unico modo per rimanere, in camuffa adesso è tipo attaccare sti due qua. Bravo, ragazzi. Io non l'ho detto, Bravo, Paladino. Due siete voi due. Magari sfortuna non sta charmando. Lui oppure dice... suona una canzoncina giusto per... Lui dice cercate forse rogne? Io sono un pubblico ufficiale, posso farvi arrestare tutti. E chi è questo rogne? È arrivata la polizia! Sì. Sei due pubblici ufficiali, l'hai pagata quella botte? Questa è stata posta sotto sequestro per indagini su... Stavo parlando della tua pancia. Per indagini su... Sì. Sei simpatico. Oh, non vi deve interessare. Cioè, ragione di Stato. Sì, sì, a me sembra un abuso di potere. Abbiamo assolutamente rispetto della sua autorità. Non senta il mio amico stanco dal viaggio. Certo. Siamo solo degli mercanti. È proprio come dice lei. Io ho il potere e lo abuso. Abuso. Antica lingua. Signor Vatistran, ha sentito? Sì, e guardi, non ci dia peso, il nostro amico è poverino, è disabile. Sì, poverino, è il mio amico è stanco per il viaggio e il mio amico è un orso. Gli è parso di vedere un'azione di malfamata là dove invece non c'era, perché lei chiaramente è l'autorità e noi abbiamo rispetto per l'avvocato. Quindi incignori, siamo degli umili mercanti giunti in città per goderci la villeggiatura, insomma, gli affari, tutto, sì. Era su ingannare. Io su Persuasion per lasciarci stare. Va bene. Posso? Poi. 14. Sì, vabbè. Va bene. Basta che non fate casini, mi raccomando. No, assolutamente. Ma no, cazzo, dovevi dire vinco. No, non ho vinto. Se avesse fatto uno avrei detto vinco. All'orbi! Esatto. E se ne va trotterellando tutto contento. Con la sua fessi? Iniziativa. Vorrei che sia visto. Vorrei che sia messa agli atti che stavolta io non c'entro. Sì, esatto. No, io non ho detto cosa faccio. Io sono iniziativa prima che Sala tiri la freccia, perché magari faccio prima io qualcosa. Patk. Cosa vuoi dire, Patk? Non lo so, vorrei che mi cagasse intanto. Dimmi, cioè dimmi, signor Bardistra. No, ma a parte Patk, se questo è il tuo contributo alla nostra causa, tanto vale che tu ti trasformi in orso e giri per la strada in quella guisa. Bravo, Sugar, ti trasformi in orso e l'attacco. Ora, no, rimanete, per favore, cercate di rimanere qua senza fare casino. Uno di voi venga con me, quello che pensa di essere meno casinista, no, che cerchiamo di parlare con Martin. Non so se ha notato quel panzone che era palesemente un burbero ladro. Sì, allora, chiaramente forse ti rappresenta. No, ha confiscato il nome del popolo. Hanno il controllo, quindi cerchiamo di, per il momento, non provocarli. Poi Sono loro l'autorità, sono loro la legge, quindi Bardistran è dalla loro parte. No, il discorso è esatto. Un po' diverso. Rimanete per il momento qua, senza farvi notare, cercheremo di farci aprire dal retro, così da parlare con Martinkov in privato. Chi vuole venire con me dentro la locanda? Atana. Io aspetto fuori. Io potrei fare una distrazione dentro, così avete pace per parlare con il tizio senza che nessuno vi caghi. Ah, io posso anche entrare, non è che io sia molto parlamento, le mie capacità dialettiche sono limitate, a meno che non tiri fuori le spade, però vabbè, questo non credo. Vieni con me. Vengo io con te. Beh, posso fare un combattivo negoziato, come diceva Qui-Gon Jinn. Vieni pure, Race. Allora. Ok, entrate nella locanda. Sì. Qual è la situazione? La situazione è abbastanza desolante, nel senso che è praticamente... Prima di entrare non ci vuoi lasciare tipo... Cioè, rimaniamo d'accordo in qualche modo? O... Sì, non fate casino. Non fate casino, state qui, fermi e buoni. Buoni e fermi. Sì. Quando loro sono entrati? Vabbè, fammeli entrare. Va bene, vai. Vi dicevo, è praticamente deserta, vedete solo uno dei, come avventori, uno dei vecchi cacciatori di lupi, sciupato, dimagrito, che guarda fisso nel vuoto, e poi il vostro amico Martinkov, figlio, che non mi ricordo come si chiama, che pulisce il bancone con uno sguardo molto sconsolato e con gli occhi pieni di tristezza. Cazzo, quello è un altro ricercato di Stan. Ci avviciniamo e gli dico: Martin, come il cui nome non ci è stato, perché il master non se lo ricorda. Dovresti ricordartelo, te l'avevo detto. Egon Martinko. Capito, Catalan se ricorda, dovresti ricordarti. Si chiamerà Deron Martin. Kevin. Vladimir Martinko. Vladimir Martinko. Oggi random partono i sottotitoli automatici. Poi Yak vi ha scritto e vi saluta, non è vero? Sì, è vero. No, gli ha capato. Sì, poi ha scritto beati voi, o il solito nome del genere. Urwin Martinko. Urwin Martinko. Sì. Kevin 3. Gli dico Urwin Martinko. Lui si alza lo sguardo per vedere chi è il nuovo avventore, sperando di non essere di nuovo... Questo era il mio nome. ...abusato dai vistani, e vedendoti arrivare il suo volto... che alla fine gli piace. ...si schiarisce in un raro sorriso. Però lui non mi conosce. Come no? Sì. Beh, sia stati lì, ma non è che abbia fatto sta gran balotta. Si ricorda... Si ricorda, no, è vero, non siete stati voi lì per molto. Però aspetta, se lui aggiornava noi a Crest, qualcuno aggiornava lui qui. Quindi in teoria sa chi siamo. Ma soprattutto voi... Comunque ci ha visto. Esatto. Vi siete incrociati, di sicuro, anche perché Irina l'avete lasciata qua per non so quanto tempo. In compagnia di lui si ricorda. Ah, è vero, di Pac. Del nano. E l'altro. Pac, esatto. E di Bayern. Esatto. Che ancora lì, in realtà. Questi avventori non sono molto loquaci. Con la bava. Esatto. No, in realtà Bayern in un posto Bayern, molto sì, è rimasto lì di fatto. Bayern, tipo la polvere sopra. Ecco dove eri finito. Stavamo cercando. Veniamo. Lui ti fa un sorriso e dice: prego, sedetevi e ti versa. Aspetta. Un bicchiere di vino. Aspetta. Non bevo in servizio. Abbiamo un carico per te, ma vorremmo parlare con te in privato. Riesci a farci aprire dal retro, così subito passiamo da lì? Fa un fischio e vedi il suo piccolo figlio che comincia a correre dal piano di sopra e scendere le scale. Ciampa. Allora tipo, vabbè. E gli dice, vai ad aprire su dove c'è la stalla con l'ingresso per il carro. Va bene, allora io direi che con Race noi ci beviamo un bicchiere di vino come shot, tipo, e diciamo, e io dico grazie avventore, alla prossima, e poi esco. Bene. E Race è d'accordo. Sì, cioè io non ho la mia faccia, ma va bene. Sì. E niente, allora a questo punto non so se Arci tempo ha distrutto la città, se non l'ha fatto. No, quello no. Però quando loro entrano, e il marrano sicuramente col barile non è che avrà fatto tanti metri in là. da quando un po' a distanza, ma cioè un po' lontanuccio, e gli evoco vicino qualche lupo che ha come obiettivo solamente quello di tipo ululargli contro, rinviargli contro per fargli abbandonare il barile e farlo scappare. Ok. Lo faccio abbastanza lontano, quasi al limite del mio raggio, in modo tale che non rischio che lui veda me che casco. Va bene, quindi prima cosa, per fare questo, fai uno stealth. Stealth di cosa? Per non essere visto. Sono sto stealth. Vabbè, con un vantaggio però. Per quale motivo? Perché lui è lontano di spalle di certo. Non tipo. Da lui. Magari degli altri vedono. Esatto. Grazie Giulio. Allora, dei lupi in città, che atto normale. Assolutamente non 10. 10. Ok. Ho un più 2. Si dice perdo. Io sono lì, cioè siamo lì col carretto. Noi apriamo, vediamo tipo la città in fiamme. Va bene anche di qua in fondo. Sì, Giulio, noi siamo lì con lui mentre lo fa. Un gorilla gigante che sta sfondando le case. Sì, che probabilmente sono io e tu di fianco, ma io non ne so niente. E poi per farlo spaventare fai un intimidire. Ma che intimidire? Gli sparo 8 lupi sul culo? Cosa devo intimidirlo? Però tu hai detto voglio che lo spaventino, no? Sì, catta. Se devo scegliere tra tirare un intimidire o tirare un'iniziativa, credi che ci pensi due volte. Con vantaggio. No, fare un intimidire usando la tua saggezza come modificatore. Per farli apparire spaventosi. Ma quindi noi vediamo lui che casta? In effetti, se dovessi vedere quattro lupi per strada, io non sarei particolarmente spaventato. No, otto però magari sì. No, senso, mi sembra... Sì, cioè, vabbè. Ma la tua reazione sarebbe mollare il barile di vino o chiamare le guardie? Comunque, cosa devo tirare, detto? Se vuoi fare un po' di catta, direi che è abbastanza... Intimidire con, usando la saggezza. Di dado, 18 di dado, a cui aggiungo la saggezza. Sì. Che ho più 3 e la proficiency no, però, vero? A meno che tu non sia proficiente in... No, non sono proficiente. 21. Ok, si spaventa a morte, e getta il barile e si mette a correre o vanno. I lupi... Dipende, tira un dado percentuale. Che coglioni, un dado da percentuale. 100 facce, rolla. 19. No, non si rompe. Oh. Prendo il barile e lo rompo addosso al tipo. Prendo il barile e lo recupero. Entro nel... I lupi intanto lo followano, gli ordino di ammazzarlo. La cosa perfetta era diventare un enorme scimpanzé gorilla, prendere il barile e tirarglielo. Cioè, era proprio perfetto. No, prendo il barile, ma poi magari l'altro faceva "It's me, Mario". Entro nella locanda e al locandiere gli dico: "Forse questo è vostro". Lui sgrana gli occhi, incredulo, tra l'altro ti riconosce perché sei tu qua ci hai alloggiato. Non verranno qua a picchiarmi. No, è lui che l'ha buttato per terra. Giulio, se vuoi comunque pure con Tycoons, se vuoi commenti tanto, perché io commento come... E cerca di capire che cosa è successo, poi ti riconosce e dice: ho visto, è un piacere rivederti. C'erano dei lupi in mezzo alla strada e il tizio si è spaventato e ha mollato il barile. Avrei fatto così anch'io, d'altronde. Come dei lupi in mezzo alla strada? Erano stati tutti scacciati da quando... No, tutti meno qualcuno. Adesso verranno di nuovo qui, verranno in forza. Distruggeranno la mia locanda. Su questa porta il loro numero non conterà nulla. No, beh, non è colpa vostra se qualche lupo è in città. Beh, non si vedevano più da giorni, come possibile? Ma questo è Martinkov, non ho capito. Sì, lui è andato da Martinkov e gli ha dato. Ma intanto che voi state, immagino, facendo il giro. Cioè, noi tipo usciamo e ci vediamo dietro. Tipo Arci che entra nel barile. Sì. No, lui rientra col barile quando voi state facendo il giro da dietro per far entrare il carro. Sì, ma se io esco e vedo che non c'è, dico: dove cazzo è? Tu entri, cioè, non è che dico vabbè, tutto normale, andiamo, va? E quelle case in fiamme, tutto a posto, via. No, c'era, dov'è, Pat? Vabbè, sì. Qualche passo più in là, no, che casta in quel momento. Se non vuole più il barile non c'è problema, però non credo che possa incolpare lei. Invece sì, l'ha mollato in mezzo alla strada, però l'aveva preso da me. Chiunque verrebbe a controllare, c'è scritto il mio nome sopra, mi sarebbero addosso in... Grazie. Vabbè. Mi sarebbero addosso in 2 secondi. Adesso come faccio? No, è tutto perduto, tutto perduto. Cioè, non è il contenuto il problema. Travasi il contenuto e butti il barile. Bisognerà farlo sparire. Se lo trovano, sono finito. No, un barile? Lo ributto in mezzo alla strada dove era. Ma anche se non lo vuoi, basta dirlo. Hai ragione, apprezzo il gesto e te lo ridà. Ok, ma ora sarà divertente quando ti vedrà entrare dal barile. Io sono lì. Tu voi capo il barile? Noi siamo che quelli che erano con Bardistram siete entrati dal retro col carretto, adesso siete dentro e lui stava per venire a raggiungervi prima che venisse interrotto da Pat. Il barile di vino. Un barile di vino, ma era bastante. Ne avete uno più grosso sul carretto. Divino tutto attaccato. Okay. Hai ragione. Va bene. Martinkov si ripiglia un pochino. scosso da quello che potrebbe accadergli da lì a breve, e vi raggiunge sul retro dove avete portato il fatto. E lo vedete abbastanza provato, è un uomo su una crisi di nervi. Come qualunque barista. Esatto. Qui c'è il tuo carico, ti possiamo aiutare a nasconderlo se vuoi. Ah, vi non so come ringraziarvi. Le mie provviste ormai si stanno scomparendo con queste indagini continue. Dovete provare con la birra. Devi stare. Purtroppo non abbiamo delle piantagioni di malto. È strana, da quando Lady Vetter ha preso il potere sembra che tutto vada per il meglio, non ci sono più incursioni di lupi e i branchi della foresta non assaltano più la gente che va a raccogliere funghi. Strano. O va a cacciare. Sì, è molto strano. E da quando ha preso il contrario. Da quando Lady Vacter ha preso il potere, i distani hanno occupato tutte le postazioni di guardia della città e controllano che di notte nessuno esca dalle proprie case a meno che non abbiano dei permessi speciali. Sì, perché mi dette autocertificazioni. Ma quindi solo i vistani sono le sue forze o c'è anche qualcun altro? Che se noi sappiamo quello che viene detto nei comunicati ufficiali letti pubblicamente nella piazza, e ci hanno parlato di un che da ora in avanti è iniziato un prosperoso periodo di pace dopo che sono stati fatti accordi con il conte in persona. Non l'avevi notato? Sì, l'avevo notato. Per qualche strano motivo volevo farlo notare anche a voi. Ho scritto i mercati si sono riempiti di ortaggi, patate, cipolle in quantità mai viste prima. Certo, sono sempre esigue, ma almeno nessuno deve più soffrire la fame. Male. E inoltre, non so per quale motivo, è stato un decreto del villaggio ha stabilito che tutte le donne, se in grado, dovranno cominciare a figliare o le verranno addebitate più tasse come si dice, addebitati tributi aggiunti. Che legge strana. Al contrario, gli verranno pagati profumatamente ogni nuovo figlio che daranno alla patria. Allora, sono le società più ricche quelle che di solito non fanno figli, qui non siete esattamente ricchi. Non lo siamo mai stati, ma... probabilmente sono doni per i vampiri. Non riesco a dire. Emily Voggi di sotterra i morti. Non lo so che cosa stia succedendo laggiù. Da quando è sparito padre Lucian si sente più nulla dall'orfanotrofio, non si vedono neanche più i bambini giocare per strada. Quello che so, quello che vedo, e c'è Milly Voggi che tutto il giorno scava via la terra dalle tombe in continuazione, e non parla con nessuno, e come scende la sera si rimpana subito in casa e chiaramente non esce più perché gli è impedito. Scava dove finisce? È il caso di andarci a parlare. La terra che scava la lascia lì. Allora, no, rimane come dice, la espone all'aria. Solo la terra. Solo la terra. Potrebbe essere legato sia alle ai vampiri, alle progenie. Quindi dove è dormono? Abbastanza grave. Allora, il discorso è questo. Tu... apriamole Orwin. Tutte di giorno. Sì, però non so perché sta cosa non ce la faceva fare Katta di solito. E, no, l'abbiamo fatta quando abbiamo cacciato le... le progenie nella casa del sì, ma avete rispettato qualcosa di sacco. No, cosa? No, capito, quando andavamo intanto mi gratto con la reliquia. No, tipo, non ci fai eliminare le progenie così niente di solito. E allora vabbè, non è una questione di stupidità, in realtà vabbè. Comunque la bara, c'è la progenie dentro, esplode. Sì. Ma secondo me non ci sono le buone, però vabbè, comunque Orwin, ascolta una cosa. La situazione a Kretzk la conosci, no? Sono stato informato fino all'altro ieri, c'è qualcosa nel frattempo. Beh, in realtà sì, purtroppo. No, beh, non rido. Non rido. In realtà purtroppo sì. Sai che c'è I lupi sono tornati. Ti devo informare che purtroppo avrai più una fetta maggiore dell'eredità con graduazioni sulla via per Kretzk dalla vineria. Il carro di tuo fratello Deron, come si chiama? Si chiamava fratello di questo che non David. Sappiamo Elvir. Il fratello più giovane. Il tuo fratello sì, Elvis è stato purtroppo è stato attaccato, non sappiamo bene ancora da cosa, e purtroppo ha perso la vita. Oh mio Dio, è una cosa terribile. Solamente intatto. Abbiamo recuperato il carro, ma non abbiamo trovato tracce di altri con lui. Purtroppo lui non c'è. Vabbè, c'è sempre l'altro fratello, più o meno. Però Doug come sta? Che cosa è successo? È scomparso. Ah, Doug è scomparso. Come è scomparso? Oh mio Dio. Se vuoi uccidiamo anche i tuoi genitori. Ma non, almeno non abbiamo trovato il suo cadavere, quindi potrebbe essere ancora vivo. E poi, la madre è ancora viva, perché ne conosciamo solo il padre. Ascolta. Esatto. Kretzk ha bisogno di provviste. Tu riesci a recuperarcene un po' in giornata? Perché così manderemo magari il carretto intanto a Kretzk con un po' di provviste. Eventualmente, se non ti basta, possiamo aiutarti anche economicamente. Sì, ho un po' di risparmi da parte, se mi date una mano posso andare al mercato a comprare questi ortaggi che sono comparsi quasi dal nulla, però possono andare benissimo mangiati, sì, patate, insomma quello che riesci a recuperare. E ascolta una cosa, quanto ti sei a conservarti? Penso voi quante bocche dovete sfamare? No, dobbiamo riempire il carretto, Orwin. Ah, ok, questo carretto qua deve essere pieno. E chi controlla questi ortaggi? Vengono distribuiti dai vari mercati fruttivendoli, gli alimentari della città. Ma chi li fornisce? Non lo so. Non ti so dire da dove vengano. Ho notato che con questo clima arrivi tutta questa roba? È impossibile che arrivi tutta questa roba, non ho idea di da dove la tirino fuori. Ho notato che c'è dietro strada, sicuramente. Ultimamente a nord, verso nella zona che va dalla città al lago, sono stati abbattuti non si sa da chi molti alberi per fare spazio a dei campi. Questo lo dico off game, non è che hanno semplicemente una gemma. Proprietà come quelle della vigna, magari sì. Comunque qui chiaramente dietro c'è strada, ovviamente, che fa quel cazzo che pare, quindi ha interesse che vuole interesse di stabilire il suo potere su Vallachi, e quindi ovviamente sta facendo, diciamo, portando benessere alla città. Probabilmente lo fa per ingraziarsi la popolazione per qualche motivo. Naturalmente, ma quando noi avremo riportato l'austerità? Esatto. Questi mediterranei. Sì, è vero, stradivi esatto. A tutto quello che vi serviva. Basta con questo cibo a debito. Che vi offro io. La libertà esatto. Di servire sotto il mio comando. Ma in fondo, a parte le scuole, le strade, gli ospedali, cosa fate a strada per noi? Guardate, due ospedali, e non ne bastava assolutamente uno, cosa ne ha fatti due? Non girare, una vergogna. Il sistema metrico. Delle astricate strade. Bruciate il cibo. Perché devi pistolare coi dadi vicino al microfono? No, adesso era il sacchetto di pistacchi. È un po' che mangia pistacchi, non mi hai visto? Fai il bravo, Giulio. E vai, fastidio. Tra l'altro, esatto, no, allora ascolta Urwin, il discorso è questo: ci devi riempire il carretto, dimmi quanti soldi ti servono, e poi un'altra cosa, tu qui chi ti sta aiutando qua? Noi andiamo avanti sempre con le nostre forze. No, quante persone siete? Esatto, c'è vittimismo. Mia figlia, mia moglie. Bene, i tuoi figli quanti anni hanno? Ah, sono ancora vivi? Per ora. Sono due bambini. No. 10-16 anni. 16 a posto. 6 e 10, non è che si somma. Il discorso è questo, nel senso che noi vogliamo comunque vorremmo probabilmente rimanere in città se possibile a fare un po' di indagini, e quindi vogliamo mandare sto carretto indietro. Quindi hai qualcuno di fiducia da mandare col carretto? Sì, posso lasciarlo al mio garzone che abbastanza in grado di condurlo. E allora quanto vuoi per fare questa spesa? Riempire il carretto di roba? Poi chiaramente per riempirlo di patate mi bastano 10 monete d'argento. Se vogliamo prendere qualcosa di più nutriente, tieni, ma al massimo penso 5 monete d'oro. Come si è messo in cassa comune? È vuota. Non ci sono soldi allora. Per queste cose. Ma aspetta, ma sono come soldi vuoi? Veri o soldi di quelli... Il magazzino è stracolmo, mio signore. Non li hai solo tu i soldi di quelli. Vai, tieni se 5 monete d'oro. Se non li dai tu? Glieli do io. Quelli che vuole lui sono soldi firo. Piro piro. Vai, glieli do io. Cosa vuol dire? Non capisco. Vuole i soldi falsi lui. Non perdiamo tempo per se stronzate. Gli do 5 monete d'oro e niente. Poi che intanto ci riempa il carretto, noi faremo le nostre indagini. Ti ringrazio, sarà del mio meglio. Se ce lo riempi in giornata, lo mandiamo subito. Vado subito. Voi usate pure come se fosse a casa vostra la mia umile dimora. Molto bene. Per qualsiasi cosa fate un fischio. Come fosse casa nostra? Ok. Boh, non lo so, casa tua, come la tieni? Va bene, cosa volete fare? Non so, Atanas, casa sua. Ha una casa, intanto. Esatto. Andare da Milivoji. Ok. Va bene. Facciamo. Va bene, vi avvicinate alla chiesa. E posso, un attimo, Catta, giusto una cosa, ma sta roba di... cioè, Pat che lo ribecchiamo da qualche parte o Ciccia? È lì con voi. È lì con voi, Vez. E quindi abbiamo anche sto coso di vino o no? Sì. Dipende se se ne è liberato o meno. L'ho buttato sul carretto. Abbiamo il carretto, easy. Cosa ci fai con quello, Patk? Me l'ha regalato la guardia. Sei andato a prenderglielo di mano? No, l'ha buttato per terra lei. Così? Ma ha beccato dei lupi, si è spaventata e ha mollato il barile. Da dove venivano quei lupi? Ah, sono un druido, ma non conosco tutti i lupi del presto. Certo, soprattutto i lupi della città. Va bene. Conosco i lupi di campagna, non i lupi di città. Dovresti ben sapere, Bardistran, che ogni volta che cerco di evocare lupi arriva un cavalluccio marino, un'aquila, un rinoceronte, i due la corre. Questo è vero. Non me li devi tirare. Non me la fanno tirare, Vilma. Nascondiamolo da qualche parte, magari potrebbe comunque tornarci utile come diversivo. Preso per quello, Bardi, ecco la parola che cercavo prima, diversivo. Io posso essere rimasto diversivo. Ok, allora lanciamo sfortuna. Non intendevo questo. Prendi questo barile e vai di là. Esatto, vai questo barile. Leghiamo il barile su sfortuna e lanciamo il barile rotolando. Ok, no. Andate verso la chiesa. Però prima nascondiamo il barile un po' in camuffa da qualche parte. Ma sul carretto? Il carretto no, lo deve riempire della roba, Arx. Il barile è sotto, viene coperto di merda, fine. Ma è inutile che il barile... Il carretto adesso lo portiamo a Trek. Dove produciamo il vino. Se no dove lo mettiamo? Lo portiamo in spalla? No, appunto, lo nascondiamo magari da qualche parte. Non posso dietro un albero. Rinvasare un cazzo di barile avviato e lasciare lì il fottuto vino. No, perché io pensavo che magari ci potrebbe effettivamente dire come diversivo, tipo andiamo, diciamo, abbiamo trovato questo barile. Sì, ha un sacco di usi quel barile. Cioè, magari no, ma... però potenzialmente è che è l'unico barile che ha. L'unico barile. No, perché così tipo allora, diciamo ne prendiamo un altro. Che può servire. Beh, è un ottimo modo. Lasciamolo lì alla taverna per un barile gigante, un barile da là. Lui non lo voleva la taverna. Però come dice Sara, lo potrà rivasare in un altro. Ci basta un barile per mandare in fuffa. Per quel che ho capito, non voleva farlo. Non so. Anche questa è creatività. No, okay. Io l'avevo detto comunque a Martinkoff, mi ha rotto il cazzo all'infinito. Esatto. Adesso ce lo teni a noi. Però nascondiamolo da qualche parte. Alla taverna, è l'unico posto che abbiamo. E prendilo, no, magari dietro un albero, che ne so, scaviamo una buca dietro un albero. Taverna insieme agli altri barili. Porca puttana. Sto cazzo di disegno. Era per evitare... che se vanno a perquisirlo trovino quel barile, quindi lui si è fottuto. Non è questione di sì, ma saranno tutti barili uguali col marchio di Martinkov, cioè non è che c'è il codice a barre. Non è come oggi avete mai visto se aveva in Gran Bretagna lì. C'è il lotto. Sì. Ma se lui ci aveva sta scaga, ci sarà un motivo. È tracciato, Sarà un motivo. C'è il GPS. Forse sì. Cioè, ci sarà un motivo per cui lui aveva sta scarica. Apro il barile e me lo bimbe. Magari no, vabbè, fate come cazzo vi pare. Andiamo da Milivoji. Va bene. Arrivate vicino alla chiesa. Siete al limitare del recinto che racchiude... È il prete? No, era il garzone del prete. Il prete come si chiama? Lucian. Lucian. È ancora vivo, no? Non lo sapevo. Non c'è. Nessuno l'ha più visto da quando ascoltassi. Zitto, Bezzi, c'erano cose importanti da fare con un barile. Lucian non sapete più niente da quando Vatter ha preso il potere. Arrivate al limitare del recinto e vedete dall'altra parte del cimitero il giovane Milivoji intento a scavare come suo solito. Milivoji, ho una domanda, aspetta, prima di fare cose, la chiesa è aperta? No. Porca troia. Va bene. Volevi rimetterle a posto? No, volevo entrare e vedere se erano i vampiri e venivano sparati fuori. Non è un interruttore, Vabbè, possiamo andare verso la chiesa e entrare. Buongiorno, garzone. Passate davanti alla chiesa. Da ladro per aprire il porto. Sì, vabbè, ma non è un ladro, è un arcane triste. Sono un ladro. Va bene, attrezzi Dark and Tricks. Sì, Allora, siamo dei mercanti, eravate in città, andiamo in chiesa a pregare. Al carisma alto, cioè, Salla. Alla fine, se Salvini e la D'Urso possono pregare in diretta TV, non vedo perché. È un riposo da una loro signora di spendere. Se io l'ho visto in diretta. Perché ma cazzo ti vuoi guardare? Beh, per caso ero lì. Lo facevo in due, perché c'erano loro insieme. Siamo in due, Barbara. Siamo in due. Bene. Grazie per averci condiviso questa esperienza. E, come tu ti appropin qui per salutare, cioè, anzi, come vi vede da lontano, comincia a scappare. Oh. Inizio a vedi? Per raggiungerlo. Vedi, se avevamo adesso il barile da tirargli. Cosa c'è? È vero. Beh, no, c'è il bowling. Tanta roba. Il barile ce l'ho ancora. Beh, io in teoria potrei inchiodarlo con delle frecce, però. Fallo. Sì, anch'io sparo una freccia. Sì, allora, fatelo in ordine di iniziativa. Ok, dai. Iniziativa. Cosa sta succedendo? Iniziativa per vedere chi colpisce meglio il garzone. Fumble! 17. 5. Ah, ho fatto 6. Ah, partiamo così di brutto? No, andiamo in iniziativa, Vez, stai tranquillo. Vez, niente di strano. 18. 4. Aspetta, se vuoi chiedile tu una alla volta. Facciamo. Tu hai fatto 28, hai detto? Io 18. 18. Era un po' alto. Il tipico barbaro che ha tirato 25 di dado. Ah, a vantaggio per l'iniziativa. Sì, ho capito, ma 28 è comunque. Lei è il nostro master. Io ho fatto 40. Raga, se Katta dice 28, la risposta è sempre sì. Vinco. Poi c'era Race 6. Okay. Io 5. Pat 5. Con il mio fumble mi supero tutti. Cazzo, Vez, forse non sei ultimo. Atanas 17. 17. Chi manca? Sfortuna 10. Sì, io 5. Vez? Io ultimo, direi. 4 ho fatto. Sì, è riuscito a essere ultimo, grandissimo. Era difficile. Hai provato a dire vinco. È il segreto. Ok, Garrosh, no, quindi. Io ultimo come frase. Quanto dista da me, da noi? Allora, dista da voi. Questi sono 250 piedi. È such, man. Cioè, ci ha visto la... Sì, dall'altra parte del cimitero. Quando stavamo ancora per avvicinarci alla città. No, sì, più che mili voci sta correndo. Beh, non ci sono grossi ostacoli visivi tra lui e voi, parte delle lapide. Verso cosa sta correndo? Lo vedete correre verso la morte. Il retro della chiesa. L'oratorio, per intenderci. Scusa, l'orfanotrofio, volevo dire. L'orfanotrofio. In modo da cercare di sparire dalla vista. Userei la mia fionda se fossimo in un'altra campagna. Ma ancora. Che tira così lontano, esatto. Comincio a correre. Ok. Fortissimo. Va bene. Ricordati che il mio movimento è 35 t. Quindi fai 70. Esatto. Ma il non stealth, perché abbiamo deciso di non fare il non stealth? Beh, lui ci conosce, in realtà era nostro, tra virgolette, amico. Ma insomma, chiamiamolo così. Cioè, amico no, però ci conosceva già. Perché io lo dico, problema, che è un nostro nemico che ci conosce. Io l'ho tipo menato malissimo. Cioè, pensavo fosse tipo ovvio che sarebbero andati tipo stealth, però vabbè. Ci ha salutato. Non l'ha detto. Arci l'ha salutato. No, Arci l'ha salutato. Il famoso saluto furtivo. Ciao. Da 250 piedi. Arci l'ha salutato, 250 piedi, anche botta vedi. Sì, esatto, è Katta ridimensiona tutto. È Katta che no, infatti ho detto come vi vede arrivare, però dato che io detto... saluto quando sono a 10 metri, ovviamente, Katta. Non è che io saluto da qua. Sì, ma nel momento in cui tu mi dici lo saluto, quindi lo vai a salutare, non è che ti nascondi per andarlo a salutare. 250 piedi sono tipo 100 metri. Ehi. Ciao! Dai, Katta, 100 metri, che cazzo è la campagna di Eva? Dai, capito? No, non l'ha salutato. Però lui li ha visti arrivare. A me ha appena detto che l'ho salutato. Quando sei falso, merda, cazzo. Sono 75 metri. Sì. Vabbè, dai. È da qua, là. Sì, ah, là, vabbè, che cazzo sì. Di camera c'hai, cazzo? Oh, comoda la quarantena quando hai case di 75 metri. Vabbè, è dall'altra parte della strada. Hai capito? Che cazzo di strada c'hai, cazzo? Che strada è? E anche l'erma bandiera, è da un estremo all'altro di campo di calcio. No, no, ma sì, dicevo, sì. Tranquillo, Catta intendeva di là, tipo a casa di Iac. È un portiere, è proprio quello. Portiere che di là, alto di calcio, non lo sente. Sì, tra l'altro non può neanche riconoscerci perché il gruppo è diverso. E riconosce qualcuno di voi? Sì, vabbè. Giulio. L'unico non cappucciato, l'unico scappucciato, scappellato sono io, ma una faccia diversa. Sì, siamo mezzi camuffati da lontano. Ci riconosciamo. Il classico garzone con 50 in perception. Cioè, c'è sfortuna che non l'ha mai visto. Io almeno sono incappucciato e l'armatura che ho non l'ha mai vista. Perché è quella del suo borgomastro. Esatto. Va bene. Va bene. Atanas, cosa fai? Quindi a 250 piedi? Sì. Sì, che distanza fai? Di un saluto, Giulio. Distanza di un saluto. Beh, se fosse così il coronavirus non te lo passi, non te lo saresti mai passato. c'è gente che è per strada. Qualcuno sì. Sì. Sono lì che si salutano a 500 metri l'uno dall'altro. Appunto, sono molto... Qualcuno che porta in giro delle cose, vedi. Fermate tutti la registrazione. Beh, sta mangiando una banana in diretta. Questa va su Twitch. Su. Aspetta, che lo metto in primo piano. Sborra sulla banana. Oh, è tornato. Se vuoi guardare la diretta, è il momento. È tornato Giovanni e ha corretto il suo nome. Adesso no, a due profili. No, due account. C'è professionista. Che bello. Adesso vedo Bez che si mangia una banana. Attenzione. Messaggio vocale di Ian. Spero sia. Tra l'altro, Bez sta mangiando la banana e io lo vedo laggare. Potrei fare tanti di quegli screen. La vita. Hai finito la banana, Bez? Sì. Era buon. Volete farmi allora... anche mettere un po' di placement? No, però placement grosso. Oh. Con gli attacchi a distanza non c'è vero i danni letali. No, esatto. Sono solo letali. Dai, io Giulio. Non posso fare nulla, uccidetelo. Io posso curarlo comunque dopo, quindi easy. Posso provare a prendergli una gamba? Qualcuno in sottofondo, sì, diciamo che puoi fare un vantaggio da tirare. Puoi usare tipo il tiro com'è quel talento che ti dà meno 5 al colpire per fare più 10 danni, no? Certo. Meno 5 al colpire e avere oltre allo svantaggio, ma quello ce l'avevo già per colpirgli una parte del corpo. Ok, lo faccio. Arco lungo. Ok. Nessuno mi ferma, sei d'accordo con questa cosa? Comunque, agisci per primo tu. Magari qualcuno ha qualcosa da dire, possono parlare. No, no, io l'ho già salutato. Ok, cazzo, che sfiga. Il primo tiro ho fatto 22, quindi niente. Secondo... No, tu giri dei più, eh? Ah, giusto, è vero. Quindi ho fatto... però non mi basta, perché ho meno 5. Ah, ok. Cioè, ho più ma 5, meno 5. Ma tira lì per colpirlo alla gola, poi tanto lo curo, se va a 0. Sì, anche non ti ha visto mangiare una banana in diretta. Benissimo. Con chi sta parlando? Mamma mia, okay. Prega, quando torna dobbiamo dire una situazione totalmente. Mi piace. Sei... assolutamente mancato. Ah, niente, fine. E mi muovo di 30 piedi in avanti. 30 piedi. Fermati. Non ti vogliamo fare male. Vieni qui, non ti faccio niente. Io ci ho provato, le prossime saranno letali. Letali frecce che arrivano dal cielo. Sfortuna. Io ho 10. E nessun altro più di te. Okay. Eldritch Blast. No, non ci arriva Eldritch Blast. Invio il mio buffo. Non hai il coso che spara 300? Perché avrei dovuto prendere il coso che spara 300? Beh, è la base di Warlock. Io il mio gufo, 120 piedi volando. Ok. Può sparare dal gufo forse? O sei ancora, più, sei ancora scarso? E mi muovo di 60. Ok. Ma cerco di fare tipo elicottero dall'alto per vedere e seguire. Un po' volgare Marco, mi sembra. Race. Quanto è lontano, hai detto? 2,50. Vado in chiesa. Ok. Arrivi davanti alla porta della chiesa. Ma io ho un movimento aggiuntivo. Arrivi davanti alla porta della chiesa. La porta. La porta? È chiusa. Posso provare ad aprirla o devo aspettare un turno? Devi aspettare un turno. Patk. Sono già portato di saluto io, no? Sì. Quanti piedi? 2,50? Sì. Tradotto in metri? 75. Aspetta, chi ha il manuale dei mostri in mano? Io. Guarda il movimento dell'aquila gigante. Cos'è questa cosa fastidiosissima? Io. Cosa sta per esplodere? Cosa sta facendo? No. Ma tu sei un disabile. È il momento della merda. Ma sei ritardato. C'è antico, lo so, 80 piedi di mandi il drone. No, quindi si schianta la chiesa. 24 metri, no? Quindi 24 metri. Ma hai comprato un drone per la quarantena? Me l'ha comprato Marco per il mio compleanno. Per andare a, vabbè, a azione bonus cut. Sì, bonus. Certo. Sto guardando, sono fuori di casa. Azione bonus, divento aquila e faccio due movimenti sopra di lui, cioè volando in ladri. Allora, in realtà è figo, peccato che io non posso uscire di casa, quindi non posso usare. Fai 160 piedi. Ok, sei in mezzo al cimitero. Sotto di te vedi le fosse con dentro le barre. Cosa? Cazzo, è passata una fortuna. Vardistran. Vabbè, la smetto. Vardistran. FK. Ok, lui corre di altri. Abbiamo perso. Vabbè, tanto un paladino non è che può fare tanto in questa situazione. Lui corre di 60 ma perpendicolarmente a voi, quindi di fatto non cambia niente. Si sta dirigendo verso una casa. Beh, io il prossimo round lo prendo però. Sì. Ok, direi che parli strano. Vardistran sta lì a maledirsi dal giorno che li ha conosciuti. Garrosh. Faccio altri 70 piedi. 70 piedi, 140. 140, siamo a 110. Sì. Vabbè, poi gli posso provare a intimidirlo. Usi tutte e due le pezioni se fa 140 piedi. Vabbè, posso parlargli gratuitamente cercando di intimargli di farsi. Vogliamo solo parlare. Certo, vedi che corre ancora più forte. Vabbè. Sono frecce diplomatiche queste. Vabbè, ci provo. Atanas. Mi muovo di 30 piedi. Posso ritardare a questo punto? Cioè, preparo. Sì. Se l'aquila druido non lo ferma, gli sparo una freccia. Ok. Sfortuna. Di quanto si è mossa l'aquila? L'aquila è arrivata, ha fatto due movimenti da 80, quindi è 40 piedi davanti al tuo gufo. Ah, il mio gufo si muove di altri 120. Allora, continuo, ascoltatori, il fumo fa male. Vero. Vero, ma Benz mangia continuamente. È per il fumo fa male. Beh, perché ha pranzato alle 3. Tu sei un gelato. Se abbiamo saltato, facevi qualcosa. Mangiava. Cos'è un maxi bomb? Addirittura arrivati a me. E non penso di poter fare altro che non sia correre, credo, no? Boh. Però aspetta, adesso ci penso intanto. Tanto ormai, voglio dire. Mentre mangio un altro gelato, ci penso. Stiamo già facendo il secondo turno, Vez, però tu pensaci. Ok, il tuo buffo è quasi sopra. Beh, pensavo che se avremmo messo 20 minuti arrivare a me. Raggiungerlo, probabilmente sì. Race, tu sei di fare la chiesa. Ragazzi, 20 minuti è il tuo turno, non quello che ci mettiamo nelle varie a te. La apri facilmente. Entro in chiesa. C'è un vampiro? No, siamo in due, Barbara. La chiesa è deserta. I tuoi passi risuonano in silenzio. E tutte quante le finestre sono sbarrate, quindi è completamente buio. Ma lo dici il rosario tutte le sere? A voglia. Caro Barbara, Satana, lo fa. Ave Satana, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Hai Dark Vision? È una buona domanda. No. No, è un umano. Trickster. Ma c'è luce dentro? No, è tutto buio. Allora casto luce. Non ci sono le finestre. Sono sbarrato, tutto sbarrato. Casto. Ma quindi luce. Davvero sto qua a 250 metri da noi? Casto. Ma non è roba, parlate noi. È a 250 piedi, 70 metri. Allora corro come un pazzo. Ok. Non le avevamo sbarrate noi le finestre, però. Sì, tra l'altro. Sono qua come le avevamo sbarrate noi. Esatto. Fai qualcos'altro? Scansa fatiche. Abbiamo fatto un buon lavoro, allora. Ok. La tua aquila è... La mia aquila sono io, eh. Ah, sì, tu hai ragione. Sì, l'aquila gigante è lui. Sei a quindi 90 piedi. Ma in giro a distruggere palazzi, dai. Giusto. Non lo so, Katta. 160 meno 250 fa. O no? Sì. È diventato un combattimento tra astronavi di Star Wars. Bene, cosa fai? Io sono il primo druido che raggiunge il garzone in meno di 13 parsec. Caporosso, prepararsi. Continuo col Millennium Falcon, che l'ho chiamato Eagle, e tiro dritto verso il caccia imperiale. E lo puoi superare anche. Lo sorpasso il nuovo paladrago. Ok. Gli faccio di vai... sopra. Ok, no, quindi gli vai sopra. Fermo, Katta. Okay, tu dici di sopra, ma non puoi. Ma non puoi prenderlo. Dire, Katta. Ma non puoi prenderlo. Eh no. Perché? Posso prenderlo, Katta? No. No, con le zampe. Perché no? Prendilo. Perché lui addosso. Lui ha 90 piedi. Fa 80 piedi. Ah, perché movimento. Non ci arriva come distanza? Ok, pensavo sì. Per altri motivi. Ho 80 okay. Piedi in cui posso girargli sopra 50 volte, ma non posso prendere. È questo che non ho capito. Puoi ingaggiarlo. Non ho capito. Miliboji fa 80 piedi. No, li fa arci. No. Li fa arci come aquila, però non ho capito perché può volteggiargli in testa, Goku, ma non può arrivare. No, ormai non mi sorprendo più di nulla. Posso intimidirlo? Ricordi il paladrago? Certo che puoi. Sì, no, è chiaro. Scusate. Lo stai intimidendo così, vero? D'aquila, un'aquila che abbaia, sì. Beh, insomma, se non è uno intimidito così, non sa come. 14 di dado, Katta. è intimidito. Ma lo era anche prima. Sappiamo il motivo. Ma è Yak o un cane questo? È un cane. Vabbè, comunque okay. Lo intimidisco e passo il turno. Yak in casa. Ok, Bardistran, immagino tu sì, continui a correre. È il nostro animaletto domestico. No, allora, Bardistran. I campanelli, c'è un campanello. Da me? A 190 piedi. Aspetta, io avevo ritardato dopo. Hai ragione, hai una un'azione preparata, quindi poi no, si è fermato, si è fermato, Giulio. No, no, è intimidito, vuol dire che ha paura, sta scappando. No, è intimidito. Se gli sono è impaurito, scappa, quindi scappa. Scappa lontano da me. Tu mi hai detto che gli stai volteggiando sulla testa e lo stai intimidendo. Non mi hai detto che sei davanti a me. Vagli dall'altra parte, spaventalo. Sì, vabbè, no, gli sta volteggiando sulla testa, catta, perché le aquile non possono fermarsi così in un punto. Io, cioè, esatto, con l'azione preparata, io posso fare solo quella che ho detto. Tu hai detto se lui non lo ferma gli scagli una freccia. Esatto, posso fare solo questo o posso fare un'azione? Ammazzalo così smette di soffrire. Ma raga, voi non lo sapete, ma alla fine di tutto questo Katta dirà: "E beh, l'avete ammazzato e non gli avete interrogato, non avete..." E invece lui ci ha chiesto di ucciderlo. Ammazzalo, Giulio. Devi fare l'azione che hai preparato o non fa quando il trigger avviene. Ok. Vabbè, mi sparo tanto. Spara. È morto. 20. Bumble! 17. Meno 5. Ah, no, no. Con la freccia. Vabbè, dai, sì, meno 5, allora 12. Perché meno 5? Giulio, che azione hai preparato, sei onesto. No, hai ragione, no, non meno 5 perché... Mi sparavi. Lo attaccavi normalmente. Allora, però svantaggio ce l'avevi. Sì, ma con l'altro ho fatto di più. Però, però lo colpisci. 10. Tramazza al suolo trapanato. credo. Aspetta, no, non sono sicuro che sia 10. Boh, è più di 4. Potrebbe essere 1-0. Più di 4, mi sa di sì. Sì, ho il dado fatto 5, quindi è più di 4. Sì. Trapanato. Bene, vabbè, non c'è altro modo. Katta, no, era da sì, l'avrebbero raggiunto. Sì. Beh, Arturo curo, poteva Katta prendere il curalo. Lo vedo morto tipo a zero o morto tipo che ha già fatto i tre tiri ed è morto forever? Il PNG non hanno i tre tiri. Allora che cazzo dici, curalo? Ma così sprechi un incantesimo. Cioè, ormai il suo obiettivo ormai sono questi, per darci fastidio. No, siete voi che l'ho fatta voi stesso. C'è un abitante lì vicino. No, senti, in mezzo in un cimitero, sono tutti morti. Sicuro, Katta, che non ci sia qualcuno a 400.000 metri di distanza, sì, magari. Sì, uno di stanza. Di sicuro. Oh mio Dio, ecco gli assassini! Con quello di sicuro. I raggi della morte! Vabbè, raga, se è giorno io apro le bare, ve lo dico. Sì, certo. Sì, ma non c'è il sole. Siamo al cimitero, è morto, siamo a posto. Vabbè, aspetta, raga. Chi ne capisce di magia, faccia qualche trucchetto per capire se è sotto il potere di qualcosa o di qualcuno. Io faccio un perception per vedere se c'è qualcuno che ha visto la scena. Capito, se aveva un incantesimo su di lui ha lasciato delle lettere, no? Atterro sul cadavere, lo prendo e lo porto verso gli altri, così non devono farsi 8 km di corsa. Vabbè. Posso tirare? Sì, vabbè, e lo butto in testa a Vez come se lo avessi detto. Okay, percepisci un cadavere che ti arriva addosso. No, dipende, ho fatto uno Katta, quindi forse nemmeno. Vabbè, è una prova insomma. Posso fare anche un perception, sì, sul cadavere. C'è Vez sotto il garzone che fa scappate. Per fare felice il barbaro io faccio un detect magic come rituale. Ok, va bene, quindi avete ammazzato questo, stanno facendo un rituale in mezzo al cimitero. Abbiamo livellato sul suo corpo. E intanto io apro le bare, Tu non eri nella chiesa. Esco e apro. È la uscito. Cazzo. Esco e la faccio saltare. Va bene. No, già e io invece qui. Io invece prendo la pala con cui scavava Millie sti cazzi e inizio a scavare la sua fossa. Ok. Vabbè, io ho fatto un 13 di perception sul cadavere. Non so se dopo questo fight non livelliamo. No, credo, manca quasi, ma non ancora. Quasi. Catta una cosa, le bare le apro tutte con mano magica. Ok, le bare sono vuote. Vabbè. Beh, ci mettiamo in garzone. È perfetto, è già pronta. Ora c'è una bara piena. Gli inficco c'è un coso di legno da qualche parte. Un palo di legno. Lo decapita. Ok, voi lo decapita. Ne avete uno nel vostro Hunter. Sì, ma quello lo voglio tenere con me. Per okay. Strad. No, forse ce ne sono addirittura tre, non mi ricordo. Sì, ce ne sono tipo tre. Comunque sì, di paletti ce ne sono. Ok, prendo un paletto e glielo inficco nel cuore. Va bene. Per sicurezza. Sa perché ha iniziato a correre questo idiota? Direi che l'interrogatorio è stato perfettamente. Beh, in realtà l'ultima volta che l'avevo interrogato, l'interrogatorio era stato io che lo menavo. Bastava a rispondere al saluto. Esatto. Ok, che cosa fate? Allora, raga, la chiesa è vuota. Se prevediamo di stare qui del tempo, potremmo stare nella chiesa, visto che è protetta dai vampiri. Beh, perché quello che sappiamo noi è che le reliquie sono... Giusto? Sì. Io rilevo qualche magia in giro. Non c'è magia sul suo corpo o in questo... Non c'è magia, ma c'è una freccia. Cioè, quindi lui vi seppelliva a mare vuote? No, lui scavava via la terra. Sì, e... il cadavere che c'era dentro da qualche parte è finito. Sì. Ah, cioè le bare adesso sono vuote, ma cioè, si capisce che c'era dentro della roba. Se vuoi puoi provare a vedere cosa c'è in una bara ancora sotterrata. Se vuoi imperquisisco. No, vabbè, faccio un'investigation, ci saranno i rimasugli di un cadavere che è stato lì. Cioè sì, c'è la tipo la forma del corpo che ci sta. No, è quello, sì. Sì, anche perché non erano vuote nel senso di vergini, sono vuote nel senso di svuotate. Vediamo se al giorno d'oggi sono ancora giù, ci sono dei vampiri. Catta, perquisisco il corpo del garzone. Trovo qualcosa. Okay. Aveva qualche moneta di rame, ciondolo al collo, la sua panca. Tipo un dente di lupo legato a un cordino. Abiti da lavoro sporchi, sudati e puzzolenti, e per il resto un coltellino. Una spada più tre. No, okay. E un piccolo simbolo, un rosario per le preghiere. Non è servito. No. Magari già forse è stato un po' avventato la tua mossa, Atanas. Atanas adesso non è che perché l'ha fatto lui, vabbè, non dico niente. No, io ero andato lì per bloccarlo, come Aquila. Io volevo beccare una gamba, evidentemente sei tornato nano, sei ancora Aquila, quindi stai dicendo tipo sono tornato anatra. Ok. E questa è la mia scusa al fatto, purtroppo a distanza non ci sono i danni non letali. Ma io chiedo assolutamente occultare il cadavere. Io chiedo abbiamo già messo dentro una bara. È l'ultimo dei vostri problemi. Già fatto. C'è un cimitero pieno di bare vuote. Io chiedo a Reis se c'era qualcuno in chiesa. No, appunto, la chiesa è vuota, se vogliamo stare qui possiamo usarla come rifugio, visto che tanto è ben barricata. Qui c'era l'orfanotrofio, no? L'orfanotrofio è dietro la chiesa. Cercava di scappare lui. Andiamo a vedere se c'è ancora qualche bambino. Ok. Certo. Sì? Prendo il ciondolo, faccio due giri e lo metto a caffè che devi guardarti un film adesso. Frank, Tra l'altro è un film brutto. Ok. comunque sì, non è una cattiva idea quella di scavare una bara e vedere se dentro c'è un cadavere male o qualcosa. Va bene, ti metti a scavare? Vedo un posto in cui la terra è stata smossa. Vabbè, di recente. Prima andiamo all'orfanotrofio e vediamo. Dopo essere andati all'orfanotrofio. Ricordo. Posso usare plasma terreno e metterci 3 secondi. Ad esempio. Ok, dopo che siamo andati all'orfanotrofio lo facciamo. Sì. Anche perché lui scappava lì dentro, okay. Quindi magari c'è qualcuno. L'orfanotrofio. Bene. Allora, vedete l'orfanotrofio, che è questo edificio su 2 piani, con davanti un piccolo giardinetto con un'altalena e dei giochi per i bambini. Poi classico posto perché Giulio possa fare una strage. Esatto. E fuori non c'è nessun bambino che gioca, nonostante... 1, 2, 3, Atanas viene per te. Io tiro di stealth per muovermi furtivo. Ok. 13. Ma tanto stai girando con noi, quindi è tutto inutile. Anch'io catta tiro lo stealth per muovermi furtivo. Va bene. 13. 13 o 13? È la prima. Sì, faticoli. Ok. Dall'esterno non vedete segni di vita. Non si sentono voci e schiamazzi. Ma ci sono delle finestre per poter sbirciare. Sì, ci sono delle finestre. Guardo dentro una di queste se sono abbastanza alte. Ok. Produce l'orfanotrofio. Ti avvicini e sbirci tipo, puntando da sotto. E... Hai reso l'idea. E, dall'altra parte c'è una bambina che ti guarda e ti saluta a 20 chilometri. È sola, o almeno è l'unica cosa che vedo. Di fronte, vedi la sua faccia di fronte, proprio lì. Di fronte a te. Sì, Dragon si dissocia da questa cosa. Per adesso non è ancora successo niente di denunciarli. Succederà, lo sappiamo tutti. È lì, proprio lì di fronte a te, che guarda fuori dalla finestra. Ho sentito Giulio che ha detto: finalmente si chiava. Con gli occhi persi nel vuoto. No, è troppo vecchio. Ma si chiama? No. Atanas non è troppo vecchio. Cosa? No, tranquillo, diva, non è un problema. Esatto. E il bannare della Facebook. Cerco di tranquillizzarla e di dirle: tranquilla, tranquilla, sarà successo, sarà già morta. Finita, ora arrivo io. Cioè, andiamo noi. Aspetta, c'è una bambina. Sì, doveri. Me l'ero persa. Tranquilla, è finita. Comunque, c'è un vetro tra di voi della finestra. Sì, ma è un barbaro, non lo capisci. Vabbè, un vetro, minchia, non è che... Così ha fatto sceo. È trasparente. È come per il cielo, non è che isola la Madonna. Lei non batte ciglio, è come se fosse in stato catatonico. Ok. Vai, ragazzi, sceo. Forse abbiamo un problema. Dici che non è finita? sono il signor Atanas, risolvo il problema. Ma io non ho capito dov'è questa. Affacciata la finestra. Il mio detect magic rileva qualcosa. Ce l'hai ancora attivo? Può essere, però non c'è magia in questo. Nelle tue ricerche ci sta, insomma. Ti darà un suggerimento. Ha visto un tizio essere ucciso da una freccia. Può essere se ci stia, che stia scioccando. L'ha visto da lì. Noi siamo. Scusate, io mi sono perso. Noi siamo fuori dalla chiesa. Vediamo questa dentro. Non lo ascolti mai. Un cazzo. Non si è capito, ho capito che entravano dentro. Nessuno è entrato dentro, ho guardato da fuori all'interno, attraverso una finestra. Vi state avvicinando all'orfanotrofio e Garrosh. Ci sono chilometri. No, è dietro la chiesa. Ho guardato da fuori. Sì. L'unica cosa, vi avverto di questa presenza. Scio, ti piacciono i gamberoni? Chiede Yak. In realtà no, non pratico cannibalismo. Basta commentare. Ciao, delusioni. Chiedigli se gli piace questo, a me piacciono i vecchi, ma non è che... Sono gusti. Va bene. La domanda era per te, cioè, non era per me. Ah no, infatti ho risposto. Nel caso, Vez, ti piacciono i gamberoni? Tu preferisci le banane? Vez, se tu fossi una gamberona, mi piace sgusciarli. No, Kata, allora, se vuoi faccio un tiro di perception, ti chiedo se dietro la bambina... Sì, basta che sposti lo sguardo. Okay. Dietro la bambina c'è un stanzino con dei giochi per terra e vedi un altro bambino che è sdraiato sul pavimento, anche lui con gli occhi sgranati e in posizione fetale. Bene. Raga, andiamo in taverna? Li lasciamo qua. Non sono i bambini rincarati di gente che avete ucciso prima? Cosa? Sì, effettivamente di orfani ne possono aver fatti molti, non è detto che siano loro. Vabbè, dico agli altri che c'è anche un ragazzino dentro un vino, ormai possiamo entrare. Ok, chi fa cosa? Entriamo nel forno, dobbiamo fare un'altra... Ma la bambina quindi ci vede, non dà segni di risposta? Non reagisce, nessuno. No. Okay, ma non batte mai le ciglia. È evidente che gli hanno tagliato via il diamond. Nessuno di noi voi ha visto. Vabbè. No, io ho capito. Bravo, Vez. No. These dark materials. Bravo, Vez. Ma l'hai vista la serie? Sì, mi è piaciuta la serie. Molto più della bussola d'oro di merda. Beh, quello sì. Però è la povertà dei dialoghi. Impressionante, non so se sia così. È così anche nel libro, però. Quindi... Ah, ok. Allora. Ma di cosa state parlando? Io, rega, vi devo abbandonare. Eh sì, quindi Avengers inizia, non potrebbe. Sì, non si può slittare, non si può slittare. Attenzione. Vabbè, dai, bravo, no. Così me ne vado anch'io. Non è mica su una piattaforma on demand. Beh. Cosa stai dicendo? Rega, è mia sorella che studia, non è colpa mia. Io cazzeggio. Adesso che c'è il fight. Adesso che c'è il fight. Piace, niente fight. Ciao. Non mi dite quello che combinate la bambina. Che voglio non ti preoccupare, vedrai la denuncia su Facebook. Esatto. Mi chiamo fuori prima, faccio bene. Bravo. Ciao, Arci. Ciao, rega. Ciao. Vai, Kat, dici cosa c'è qui dentro. Va bene, chi entra? Tutti. Vabbè, io sicuro. Apro io. Olin. Perception, ma tanto è inutile, apro io. Ok, guardi stranata la porta che cigolando apre, che si apre. Dentro la porta vedi un corridoio che va... Oh mio Dio! A destra e a sinistra, tu sei a metà. E vedi in fondo al corridoio, alla tua destra, la bambina che aveva visto Sceo affacciata alla porta, alla finestra. Poi un altro corridoio invece è di fronte a te. Con la luce che arriva da una finestra posta alle sue spalle, in mezzo al corridoio c'è questo piccolo bambino. Molto magro, con i capelli a scodella, che cammina barcollando verso di te. È un goblin. È molto magro e molto pallido. Questo effettivamente è vero. È come i primissimi personaggi che abbiamo visto in questa campagna. Io metto una mano sulla spalla di Vez e gli dico: fai attenzione, gli do Gaina. Bisogna ucciderli tutti. E gli dico al bambino, è tutto a posto qui? Bambino, è tutto a posto qui? Non voglio che torni, ti prego. Iniziativa. Che torni chi? Chi torna? No, portatemi via, vi prego, portatemi via. Va bene, ci dovrebbe tornare l'uomo nero. Chi è l'uomo nero? Black. Non lo so, viene di notte e ci prende. Non essere razzista. In che senso? Cioè, sono tutti i cristalli qua di riappo. Cioè, vabbè, allora preferisci i cristalli forse, piccolino. Lo sentiamo, vabbè, che cammina nel soffitto. Gli faccio vedere una moneta di strada e gli chiedo se l'uomo nero è... Non capisci. Ah, no. Sì. Ha dei segni di morse sul collo o da qualche altra parte? Da qualche altra parte è brutto. Facciamo sul collo in generale. Cioè. Facciamo sul collo, catta che è meglio. Vabbè, cerchi il suo corpo, lo spogli un po'. Con... Bene, ragazzi, domani devo lavorare. Quindi... Va bene. Ha due segni rossi sul braccio. Anche ti chiami? Mi chiamo Adene. Cosa? Avevo è un omonimo. No, ma Adene è il vecchio. Omonimo. Tu eri Ade qui. Lo so. Ade. Un nome strano. Fanno una brutta fine quelli che si chiamano così. Era una temprister, per dire. Quanti bambini sono siete da 6 sessioni? Io non ho fatto 6 sessioni, ne ho fatta una. No, lo chiedi a lui? Lui comincia a fare a contare e poi si perde quando finisce le dita. 10? Cosa gli hai chiesto, Vez? Quanti bambini siete qui dentro? Vabbè, facciamo una retata. Stanza per stanza, vabbè, per sapere quanti ce ne sono, Giulio, sì. Una domanda così difficile. Ha capito, più di 10. Lui sa contare fino a 10 lo stesso. Più ma di 10. 2? Quanti anni ha? 2? È tanti. La risposta sua è tanti. Avrà 5 anni, avrà. Forse meno. Vabbè. E soprattutto se nessuno glielo insegna, non è mai andato a scuola. Cioè. Beh, anni parlare sa parlare, però vabbè. Parlare lo senti. Sì, beh, io non gli ho scritto di scrivere un tema su quanti bambini ci siano. Semplicemente che Lui ha fatto siete. Così e poi vabbè, è ancora così. È un bambino ritardato. E allora perché ha troppe mani? Risposta sì. Non ce ne sono più i bambini a quanto pare. Noi non discriminiamo le persone perché sono ritardate. Vez, basta. Allora. È un bambino ritardato che abbiamo appena spogliato e riempito di domande. No, vabbè, è spogliato, c'era sul braccio. Patk, tieni questo bambino con te. Ma? Visto che hai quella mano. No. Vezza, hai appena fatto la mossa peggiore di tutte. Catta, no, era tornato nano. Ha detto era tornato nano, scherzavo. E ora c'ha quella bava lì e quindi... Ragazzi, non so se è meglio o peggio il fatto che sia tornato nano. Ascolta, bimbo, so che non sai contare, non sai le cose. Si chiama la bambina? Rosa. Oh, bravo. Rosa, vieni qua. No, aspetta, dimmi tutti i nomi dei bambini che conosci. Ah, ce li vediamo a contare. Mi piace, cattivo Giulio. Unisci in bacio. Bravo. Si dai, spara. Forza. Sì, dimmi tutti i nomi. Dai, Rosso. Quid, dai. Quad, secondo. Pezzo di merda. Sì, era fuori i nomi dei 7 nani, vai. Tira fuori il taccuino, me li segno tutti. Mignolod, Cucciolod. Vaffanculo. Puoi anche dirci, vi dice 12 nomi, 13 nomi. Vi dice una decina di nomi. Quindi erano 10 alla fine. No, allora li vogliamo sapere tutti. Gli altri, alcuni non se li ricordo. Non so perché non sono suoi amici, gli stanno antipatici. Ah, quindi vuoi che l'uomo nero li prenda? No, non si fa così. Dovresti finire come Billy Goji. Chiunque tranne me. Sicuramente non più Millivoi. Beh, lui non sembrava così, ma non aveva segni di corpo. Ma quindi sti segni che c'ha sono dei morsi o... Medicine. Che oh. Se n'è andato. Fortune. Miss Fortune. Miss Fortune. Dai, Medicine. League of Legends. 16, forse anche di più. No. 16. Sono due morsi, cioè sono due canini che hanno perforato la sua c'è anche bambina. La ragazza, la bambina. La bambina è là nel suo angolo in stato catatonico. Vada la bambina. Vai dalla bambina. Dico, attenta intanto alle parole dico, che usi. Intanto sussurro. Perquisisco la bambina. La bambina non fa un fiato. Scusa, Vardistran, cosa stai dicendo? Sussurro agli altri che si tratta di morsi, probabilmente di bambini. Ok. L'avevo capito. Grazie, Maris. Perché devi prima ha detto ha dei segni rossi, ha detto. Cioè, la bambina non fa una piega, continua a guardare fuori con il panorama. Per quanto... lei ha dei segni, hai segni rossi tipo il bambino? Sì, anche lei. Allora, gli... Vabbè. La giro per voltarla alla finestra. Stavo per dire le giro la testa, poi detto poi tipo, noi guardiamo tipo terrorizzato, che c'è? Devi fare tutto il giro dall'altra parte. Questa cade e no, stai qua, ferma. Cazzo. Poi ricade. Che cazzo, prendere i chiodi. Ok. Tutto a posto. Vabbè, dopo averle avvitato la testa un paio di volte, cosa vuoi fare? No, sono stato corretto, ho detto che la giro, non che le gira la testa. Ok, si gira. Ma non vorrei... non c'è problema, puoi continuare a guardare fuori. Continua ad essere impassibile e non spiccica una parola. Da quando non parla, chiedo lì a... Da quando c'è stata quella notte? Quante notti fa c'è stata quella notte? La notte del grande fuoco e delle urla. La notte del grande fuoco e delle urla. Il grande fuoco e delle urla. Quale fuoco? Non... Io non ricordo. No, infatti. Non c'è mai stato un fuoco. Magari è stato un altro. No. Sarà un altro grande fuoco. E va da bene, quanto siete qua. Qui? Da quando me lo posso ricordare. E dove è finito quello che si prendeva cura di voi? Non lo sappiamo. Gli elogi. il prete sì Lucien, tre notti dopo la notte del fuoco e delle urla non c'è, è sparito, ci ha abbandonato. No, a parte che la notte del fuoco va bene rimanete qua, non piangere, comunque la notte del fuoco e della urla tutto bene, cioè. Infatti, tre notti magari non dirle che siamo stati noi. Ha detto che è andato tutto bene. Se lui mette i fili insieme e dice, ma come fai a saperlo? Ma è così. Si ma sentiva la gente anche, gridare. Magari lui era nella folla e mi ha visto ammazzare i papà. Può essere. Ma padre Luciano è sempre rimasto qui in chiesa e qui con voi? Non è sparito, ci ha abbandonato. No, dico dopo quella notte. No, dico dopo quella notte, nei giorni prima però, di sparire. Scusate, io forse mi ricordo male, ma quella notte era qui. Vinto? Quella notte? Dove avevamo vinto? Certo, una grande fulgida vittoria, luminosa direi. Sì, beh, io ho anche un inspiration per quello. No, scusate, cioè noi dopo abbiamo fatto il casino, lì avevamo vinto in teoria, no? Che sono scappate le progenie. E quindi che cazzo? Tecnicamente sì, abbiamo vinto. E poi abbiamo detto in mano alla stronza, però. No, e lui ha detto sì. Lui infatti dice non si vede, è sparito tre notti dopo la notte dei fuochi delle urne. Lui ha detto che è dal fuoco delle urla, che questa è così. Che la bambina è catatonica. Sì, la bambina è traumatizzata dal non che lui si è messo meglio, cioè vi dice si sentivano risuonare le loro grida nelle nostre camerette. Sì, ma cosa vuoi che sia, dai? Capito, dai, allora lì abbiamo, quindi non sarei un bambino di merda. Non ha fatto qualche casino, però lì sul momento no, quindi loro si mette a piangere. Dai loro punto io di vista, mi metto a suonare una canzoncina per bambini per calmarlo. Va bene, si calma un pochino. Rimanete qua, bruciato la città. Atanas. Rimanete qui con lo zio Pat. E noi altri entriamo. Sì, facciamo un giro. E... Ok, investigation. Cosa ha detto Giulio? Supriamo i bambini. Che... Prendiamo. Già. Cosa? Padre McGee. E 9. Ok, se ci fosse girate le stanze della casa. Ma non lo può fare tipo qualcuno ha un buon investigation? Lui. Io. Io ho un più 2. Non so, Giulio probabilmente ce l'ha più alto. No, io ho un più 1, più i 3 da proficiency, quindi un più 4. Potresti tirarlo anche tu, Marco. Va bene, 5. Mi do guida. Non è Salla quello che ha mega investigation. Non ho mega, un più 5, però ho fatto 23. Okay. Grazie, posto. Questo che volevo sentire. Noti fatto il giro delle stanze. Salla, siamo a livello 2, cioè nel senso è già un 5, considera quello. Raccogliete gli altri bambini che sono tutti nello stesso però stato. Però i bici salgono di livello. Aspettate, loro dicono che tutti dicono della storia dell'uomo nero. Sì. Potremmo fare un'imboscata all'uomo nero. Potremmo fingere di essere l'uomo nero. Intanto no. Potremmo portare in salvo i bambini. No, quindi... è quello che Sceo c'è un problema. Sceo, tu che razza sei? Un nano. Non è un bambino. Un bambino. No. L'altezza è quella. Vada bambino. Non è i bambini sono evidentemente usati come cibo. Esatto. Da una progenie vampirica, perché dicono un uomo nero. Non 25 uomini neri. Uno, basta 25. Notte saranno 25. Sono così. No, parlano sempre al singolare, però effettivamente parlano... Sì, hanno tutti paura che arrivi l'uomo nero. Vabbè, o sono tanti gemelli, o è sempre quello. Vestiamo Sceo da bambino e aspetta la notte. Quindi è sopra sto uomo nero. Stavo descrivendo l'investigation di Salvo. Ah sì, scusa, vai. Noti che c'è una botola sul soffitto al secondo piano. Ed è, sono di quelle che portano al solaio. E, aprendola, scende giù la scala e sali su e noti che c'è. Prego. Stop! Qualcuno fermi il master. Ho detto stealth. Ragazzi, quando ci sono situazioni del genere c'è un'unica soluzione. Potremmo bruciare tutto. Okay. Non ho capito. Arrivi in soffitta. Bruciare tutto. Sì, ci sta. Noti che c'è un piccolo pertugio sul soffitto dove è possibile infilare le dita e questo apre, come dire, una botola dal soffitto che dà sul tetto. Ah, cosa? Va sul tetto la botola. Sì. Okay. Vabbè, il passaggio della progenie. La progenie passa dal tetto. Non lo so, io distinto sarei per fare un agguato, come ha detto Giulio. Secondo me è ideale. Io non userei i bambini per fare l'agguato. Cosa usi? Vabbè, ma se la progenie, cioè dovrà entrare la progenie, non è che può percepire se i bambini ci sono. Ah, tu dici anche senza bambini dovrebbe. Sì, i bambini portiamoli in salvo, fatemi questo favore. Questo favore da paladino. Abbiamo pietà di un povero paladino. Cioè, la maggior parte possiamo portarli in salvo. Però qualcuno che faccia da esca ci vuole, secondo me. Possiamo radunarli in chiesa, tanto ci sono le reliquie. Ci sono le reliquie, quindi sono al sicuro. Pare che le reliquie non hanno nel covo dei vampiri, mettiamo non lo sai, Vez, perché? No, rega, io vi prego, sempre avuto effetto, Vez. Vi supplico, abbiate un minimo di pietà residua ai bambini. Sto dicendo questo, se li porti in chiesa è l'unico luogo sicuro della città, come è sempre stato. Se padre Lucian è andato via, dubito che sia così adesso. È l'unico, e dove li porti? In taverna? Cioè, è l'unico luogo sicuro da chi? Li portiamo in taverna, sì. Certo, e portiamo le progenie nella taverna. Perché in tipo Polani. Beh, cosa hanno, il radar per i bambini? Non lo so, però non ha molto senso portarli secondo me in chiesa. In realtà io li spedirei anche a Crete. Sì, quello poi sì, però... Sti qua, sta progenie viene, si nutre dei bambini senza ucciderli, si nutre e basta. Quindi io la tirerei con i bambini, appena prova a nutrirsi, l'attacchi e la uccidi. Sì, cioè non la tirerebbe con i bambini, però ma io non prego di non farlo. Cioè sono comunque un paladino, quindi vi prego di non farlo, perché purtroppo sappiamo entrambi, cioè sappiamo tutti come andrà a finire. Che otterremo una grandissima e magnifica vittoria. Sì, però al costo di bruciare tutto praticamente, quindi bruceranno anche i bambini, è sicuro. No, no, ma la uccidiamo con la spada, la progenie, se è uno. Sì. Scusa, ma se raduniamo... Prima, cioè, è troppo pericoloso. Una progenie la sappiamo gestire. Se raduniamo i bambini al piano terra e noi stiamo qui da là, non raggiungerà mai i bambini. Io invece metterei in salvo i bambini e manderei a Krebs con bambini. No, ma devi scortarli i bambini, non puoi lasciarli andare da soli. Insieme al carretto al film. Ho una domanda. Appena Strad sa che i bambini gironzolano fuori, visto che lui controlla tutto, ci incula con la sabbia. Anche secondo me. Li mettiamo dentro dei barili. Il luogo più no, questo possiamo farlo se li lasciamo qui e portiamo il carro qua, li facciamo entrare dentro al carro, che a questo punto però non può essere pieno di provviste, può esserci un po' di provviste ma non pieno. Se no troviamo l'altro carro. Scordiamoci dei bambini, uccidiamo la progenie, poi andiamo a ripuliamo sta città e dopo i bambini saranno al sicuro. Anche secondo me, secondo me è il luogo più sicuro per i bambini in questo momento. Cioè, io vi pregherei di provare. Ma secondo me è il luogo più sicuro per i bambini. Varristan, cosa proponi? Secondo me il luogo più sicuro in questo momento per i bambini è con noi. No. Propongo di bambini di fare in modo di mandarli a... Ma non era un bambino. Grande, questa è la logica che vogliamo. Però oppure chiedere a Martinkov se è in grado comunque di tenerli a sicuro. E poi noi stanotte potremmo aspettare sta progenie e provare a attaccarli. Sì, però una volta che la fai uscire, tutti li vedono. No, il punto è che portarli a Martinkov i bambini è un casino. Cioè, se la gente ci vede portare in giro dei bambini. Certo. No, infatti bisognerebbe farlo un po' in camuffa, però lì vabbè si potrebbe anche fare. Ma in camuffa vuol dire di notte vuol dire che ci inculano. No, vabbè, basta che li porti anche due a due, cioè nel senso... Se cosa faccio, me li metto nel mantello? Io sai mentire la volontà. Prendiamo magari anche lì solo una botte vuota, li metti su un carretto e porti, cioè troviamo modo di farlo, adesso parte tu. Cari telespettatori, quali modi fantasiosi si inventeranno? Eroi. già finito così? Salvo la prossima puntata. Io devo andare. Però io ho ricevuto l'ultimatum. Quindi, ponderate su questa idea prima di chiudere. Se noi uccidessimo i bambini, non sarebbe più il problema dei bambini. Cioè, nel senso, io nel senso, fossi, non fossi un paladino, ovviamente sarei d'accordo con voi. Però, essendo un paladino, io vi prego di invece portarli prima in salvo. Perché, cioè, se li usiamo come esca, è sicuro. Allora, che sarà la settimana prossima. Va bene, oppure prima, chi lo sa. Chiudo la diretta. Bene, grazie per averci seguito. E buonanotte. Ai prossimi episodi con Tycoons and Dragons e Rip GT. E nessun bambino è stato botte. per ora. Ora ciao a tutti, ciao.